Ciao amici di Ludico Forum, benvenuti a questo nuovo episodio di questa versione un po' collector, diciamo, di questo podcast. Tra l'altro, terza stagione molto più lunga di quanto ci saremmo aspettati, ci sono ancora delle cose in serbo, poi inizieremo la quarta, la prossima stagione che inizierà da settembre. Ancora una volta siamo stati ospiti a casa di Pixel Deb, mi raccomando andate su YouTube, cercate Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like a tutti quanti i video e soprattutto condividete, aiutate il canale a crescere. Durante le nostre chiacchierate con Pixel Deb non è così strano sforare insomma dei tempi biblici dal punto di vista della chiacchierata, proprio perché a noi poi alla fine comunque ci piace fare la conversazione sul videogame ed è una cosa che alla fine ci riesce bene, ci piace fare e quindi insomma saltuariamente magari ricapiterà. In questo specifico caso, dopo ovviamente le incursioni nel mondo delle avventure grafiche, nei vari blocchi di Decati, questa volta invece ci siamo concentrati sulla nostra top 10 di sempre, cioè nel senso sui nostri 10 videogame preferiti. Ho specificato anche in trasmissione, ma come giustamente ha ribadito anche Deborah, è difficile fare una classifica se non ovviamente cercando dei link anche dal vista personale, psicologico o anche legato a aspetti emotivi e sentimentali. Però ovviamente questo episodio è durato tipo 3 ore e mezza, quindi io ho pensato di dividerlo in due parti e questa è la prima parte di questo episodio sui top 10 e poi la prossima settimana ci sarà la seconda parte, i restanti insomma. Considerate che la classifica è in ordine crescente, quindi si parte dall'ultimo e si va verso il primo, insomma poi la ciccia di quelli che vinceranno diciamo è nel prossimo episodio, sebbene poi alla fine insomma presi anche dal fatto che erano 3 ore e mezza che chiacchieravamo, diciamo abbiamo dato un'accelerata verso la fine. Bene, detto questo vi auguro buon ascolto e ci vediamo poi con la seconda parte. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qui con una bella live ozza evento. Iniziamo questo agosto con 3 serate evento, questa è la prima delle 3. Questa sera con noi c'è il mitico e unico, la voce della radio migliore di tutte, Simone Pizzi. Buonasera Simone Pizzi. Ciao Deb, grazie per l'ennesimo invito. Ma grazie a te di essere qui con noi, mi fa tanto piacere. Abbiamo dovuto rimandare questa live la settimana scorsa per colpa del mio comune che si mette a fare la disinfestazione nella settimana più calda. E niente, quindi invece questa sera eccoci qui fortunatamente e finalmente direi per parlare della nostra top 10 dei videogiochi che preferiamo in assoluto, insomma una cosa che è stata alquanto complicata. Intanto saluto qualcuno in chat, buonasera Devil, buonasera Luca, buonasera Maria e grazie mille a Dragones, mi sembra, ho scritto Dragos ma mi sono sbagliata, grazie mille a Dragones Terzo per essersi iscritto, grazie mille, benvenuto. Quindi, allora Simone, intanto presentati per chi non ti conosce ancora, che cosa fai con Runtime, raccontaci. Allora, intanto questa è la giornata degli errori, no? L'abbiamo già detto prima. Allora sì, runtimeradio.it è la nostra web radio che da tantissimo tempo, insomma, portiamo avanti. In realtà noi abbiamo iniziato come produzione di un podcast nel 2013, sì scusa, nel 2010, e poi da lì abbiamo cominciato a farne un altro, poi un altro ancora, fino a che poi ovviamente è diventata una sorta di network, di gruppo, di amici, di persone. Quindi parlavamo di videogiochi, di storia dell'informatica e via dicendo. Questa esperienza che ci siamo portati dietro l'abbiamo anche rinchiusa in una web radio che intanto va intanto è in ferie in questo periodo. È in ferie, ma domani sera faremo invece una live insieme sempre su Runtime. Esatto. In contemporanea spero di riuscire a metterla anche qui, insomma. Esatto, sì, beh, ci sei riuscita l'altra volta perché abbiamo usato il software giusto e questa volta sarà la stessa cosa. E domani sera, sì, sul canale YouTube di Runtime, quindi ovviamente sulla parte video, faremo ovviamente questa intervista ad un autore italiano che ha sviluppato, insomma, un gioco JRPG che si chiama Case Destiny, se non sbaglio, giusto? Ti ha giocato Deborah, però. Sto giocando io, sì, esatto. In questi giorni, così almeno domani, insomma, potrò dire le mie opinioni su quello che ho visto finora. Ok, sì, no, ma tra l'altro faccio una correzione. domani sera alle 21.30 questa live sul canale YouTube di Dietrologia Videoludica. Vabbè, ma poi metteremo i link su tutti i nostri canali, quindi alla sì, fine, sì, poi domani quando prepari tutto condividerò su Telegram. Anzi, continuando a fare errori, ovviamente. Ci siamo anche su Telegram, ragazzi, quindi a una certa scorre qui il link di Telegram. Chi non è iscritto, mi raccomando, si iscriva, così è sempre aggiornato su cosa facciamo sul canale. Intanto una buonasera anche a Giuliano Frizzo, benvenuto, che dice: ciao, dico subito i miei top assoluti: Super Mario Land 2 per Game Boy, Final Fantasy 7 per PlayStation 1, okay, Resident Evil per PlayStation 1, Gran Turismo 3 a spec per PS2, Diablo 2 per PC, Broken Sword 1 e 2 per PS1 e PC. Vedi, ci sono anche le avventure grafiche, grande, grande Giuliano. E buonasera a Nico. Ah, attenzione, sta continuando, aspetta: Pokémon giallo per Game Boy, Sonic Adventures per Dreamcast, Resident Evil Code Veronica per Dreamcast, Assassin's Creed 2 per Xbox 360. Vedi, non è facile fare la top. Racconto come l'ho fatta io. Praticamente ho proposto questa cosa sia a Devil che a Simone. Però Devil mi ha detto: no, con sto caldo non la posso fare, te seguo ma non ce la faccio. E poi che e quindi cambia? Infatti è qui con noi questa sera in chat, quindi ci sta seguendo. E invece Simone ha accettato di fare questa livezza anche con tanti gradi, anche se in verità ci sta andando bene, perché oggi si sta bene. E quindi praticamente appena ho proposto questa cosa ho fatto la mia top 10, dove in verità 8 titoli mi sono usciti subito di getto. Il vero problema è stato trovare i due finali che ho trovato oggi, cioè questa mattina mi sono messa a pensare. Uno ancora già sapevo quale mettere, e il decimo è stato complicato, e poi è stato anche complicato metterli in ordine, quindi al quarto posto, al quinto posto, al sesto posto. Sai che dici, prima di tutto dicevi: ma si merita di stare veramente nella top 10 questo qui, o se lo merita qualcun altro? E poi, sì, ok, se lo merita, ma se merita di stare al sesto o al settimo? E quindi è stata abbastanza complicata come cosa. E quindi immagino anche per te, Simone, sarà stata un po' complicata fare una top 10 dei videogiochi in generale. Allora, intanto chiedo a Devil, cioè, che differenza c'è tra stare in live e seguire una live rispetto alla proporzione del caldo, no? Cioè, nel senso... Magari sta nella vasca. Ah, ok, ah, può essere. Vabbè. Che so se sarebbe sentito il rumore dell'acqua, splip, ok. No, io ho fatto una cosa. Allora, ho pensato di fare una cosa un po' alternativa, cioè ho detto: faccio una sorta di classifica per ordine cronologico più che per ordine di valore, perché comunque non sono capace a fare. Però poi, siccome che Deborah è maruvaggia, come dicono i giapponesi, ha detto: no, la devi fare in ordine di valore. E allora l'ho ricombinata un pochino, cioè i titoli erano sempre quelli fondamentalmente, perché erano comunque quelli che avevo scelto ed ero convinto della mia scelta, anche se poi rileggendola, come dicevamo prima nella prediretta, questo non c'è, quest'altro neanche, vabbè, capisci che poi dici: cacchio, però forse se lo meritava più quello, capì? Oggi ero molto in dubbio se fare entrare nella mia top 10 un titolo, e alla fine ho deciso di no. Però un po' mi dispiace, onestamente. Poi magari metterlo bonus, capito? Magari nella parte finale ce lo dici qual è, così per curiosità. Possiamo far bonus, se c'è il bonus anche te, insomma. Allora, intanto saluto anche Mattia. Ciao Mattia, buonasera. Giuliano dice: vecchietto è dell'84. Vabbè, io sono dell'88, siamo vicini, Giuliano. Io sono dell'82. E buonasera anche a Jimmy Romero, sia Mr. Zero, quindi di Runtime. Grazie di essere qui, grazie mille. Grandissimo, caro. E tra l'altro voi siete dell'82-84, io sono del 72, quindi è proprio un'altra storia. Quindi Simone ci supera, però vuol dire che sei più saggio di noi, Simone. Tutto qua la cosa. La saggezza poi fa c'è male. Luca che dice: i miei sono tutti gli Assassin's Creed, i Metal Gear, sui Coden 1 e 2, insomma sono più di 10, l'imbarazzo della scelta. E vedete che non è facile fare la top 10, ma avete tutta la serata per pensarci, in caso ce lo scrivete o su Telegram o sotto la live, insomma, nei commenti. E buonasera anche al 9000, benvenuto. Oh, buonasera. Grande, è tanto che non ti sento al 9000, caro. Sempre tanto. Di Runtime. Sì, diciamo che uno ascolta qua, ascolta là. Tra l'altro voglio fare un piccolo disclaimer. Nessun cane dalle parti di Deborah è stato maltrattato durante questa live, è importante, perché insomma... Ah, perché si sente il cane sottofondo, sì, perché io abito nel centro e quindi in estate c'è il pacchetto casino di sottofondo, esatto. C'ho la finestra aperta e quindi si sente di tutto. Ma ormai siete abituati, insomma, il giovedì sera quando facciamo la live in estate tendenzialmente sentite quando passano a prendere il metallo, il vetro, e succede un casino, c'è un bordello, insomma, vabbè. Allora, David dice: sta stravaccato col ventilatore puntato, poi non credo starò tutta la live. Nico inizia a fare, vedi, le cose. In quelle di Deb c'è di sicuro BioShock, vedremo. Mr. Zero dice: Prince of Persia e due troni per PS2, l'ho amato. Luca è del 73. E Aldi dice: se ci ascolto, ma quasi mai in diretta. Vi ascolto, quindi a runtime. E buonasera Diabolicus. Perfetto. Quindi abbiamo fatto le presentazioni, abbiamo spiegato un attimo le nostre difficoltà. Inizierei subito dal decimo posto dell'ospite. Quindi il decimo posto dell'ospite qual è? Allora, io intanto ho fatto così, ho fatto in ordine di gradimento, ovviamente seguendo più un legame affettivo, perché poi dopo, come abbiamo detto, è proprio impossibile quando uno rilegge la classifica, quindi la stili e non la guardi più la classifica. Comunque io dici fatta una volta basta. Esatto, no, perché poi dopo se cominci a fare revisioni, modifiche, invece io so uno che quello che ho scritto deve essere quello, se no è così e basta. Esatto. Okay. Buona la prima. Io inizio da Impossible Mission per Commodore 64, okay. Che insomma, quindi andiamo molto indietro, insomma. 1984. Quindi insomma diciamo molto indietro nel passato, e diciamo che questo gioco, che io non ho mai finito chiaramente, perché passa per essere uno dei platform diciamo a schermata fissa forse più difficili della storia, perché in effetti era veramente difficile, e era amatissimo per due ragioni fondamentali: la grafica prima di tutto, le animazioni, perché comunque c'era il personaggio che faceva queste capriole, questi salti. Che sto a mettere dei gameplay per far vedere, esatto, il video. Vai, e poi anche l'audio, ovviamente, anche l'audio, perché l'audio praticamente era come tanti altri giochi su Commodore 64 che hanno fatto un po' la storia da questo punto di vista, era importante. Ma qui mettevi questo gioco a volte soltanto per sentire la parte iniziale, dove nella fase del titolo si sentiva una frase digitalizzata di una voce che diceva una cosa che oggi io non ricordo, devo dire la verità. Ah, aspetta, l'ho appena sentita poco fa, aspetta. Tu purtroppo non la potrai sentire, ma noi la potremo sentire. Voi la potete sentire, bene. Ah, si fa una risata? Sta ride. Allora, sì, mo adesso io veramente sì, non... E non si capisce obiettivamente che sta a dire. Ha fatto si dice forever alla fine, ma non mi ricordo. Stay forever, quello sicuro. Però la cosa che dice prima non me la ricordo. E questa cosa allora era iper avvelenistica, no? Cioè tu immagina questa voce digitalizzata ma in bassissima definizione, lo rendeva ancora più inquietante, cioè faceva paura. Cioè io ero un ragazzino, ma faceva paura. A me sentivo cioè faceva paura. È una cosa terribile. Allora, ti posso dire che è vero, questi suoni erano inquietanti. Perché inquietante. Io pure quando o sul DOS, sai, quei suoni del DOS proprio che usciva dal computer, proprio dalle casse brutte del computer che si sentivano bruttissimi. Sì. Tipo, non so se hai presente il gioco per il DOS, si chiama Alley Cat. Oddio, che no. C'ha un suono che ti spacca i timpani, perché poi non lo potevi abbassare, non lo potevi alzare, un casino praticamente. Oppure qualche gioco per Amiga che aveva questi suoni un po' inquietanti. Quando ero piccola mi inquietavano pure a me, onestamente, quindi è una cosa che capisco. Sì, ma poi questo in particolare, veramente qui penso che a 8 bit, penso a 10 kHz, cioè è proprio una cosa, e quindi si sente tutto strucinato, si sente proprio la qualità bassissima di questo suono, giustamente, perché voi immaginate in quanta memoria poteva stare una frase detta del genere, e quindi ovviamente faceva un po' terrore. Il gioco era molto figo, cioè devo dire la verità, anche se difficile, alla forte diventava un po' frustrante, era una sorta di un po' Mission Impossible, appunto, un po' Dottor Who, cioè nel senso comunque tu entravi dentro questa fortezza di questo dottore pazzo che voleva distruggere il mondo, e dovevi cercare ovviamente di trovare delle password per raggiungerlo, e queste ovviamente era tutto pieno di computer che tu dovevi manipolare, e c'erano questi robot assassini che ti impedivano insomma di progredire. Quindi alla fine era molto divertente, lui faceva questi salti, queste capriole un po' ricorda un po' anche un po' Prince of Persia da un certo punto di vista. E vabbè, insomma, questo era il gioco, non è che c'era tanto di più, però ci passavi le ore perché era divertente. E però poi... c'aveva anche degli elementi puzzle, vero? Cioè non era soltanto una sorta di platform, no? Sì, tu praticamente era qualcosa puzzle. Sì, praticamente con il computer dovevi sbloccare determinate cose, vedi, cioè se tu lo vedi, lui ogni tanto entra nei computer, fa delle opzioni, boh, adesso poi non me lo ricordo manco benissimo, cioè nel senso che magari doveva disattivare o attivare determinate porte, roba sì, così. Sì. Era tutto basato sulla difficoltà dei sti robot che ti rompevano le palle, più ovviamente il puzzle ambientale che tu dovevi sbloccare per progredire, insomma. Quindi era, no, ma era un gioco... Grazie mille Mister Zero per la donazione, grazie mille di cuore, veramente. Grazie. Cioè, niente, facciamo finta che ti offro un caffè, ma no, grazie mille di cuore, veramente grazie. Grazie tantissime. Ricordi ed è arrivato anche Newpic. Buonasera Newpicone, Cristianone, buonasera. Ha detto giocone segnante, bravo Pizzi. Veramente ribadisco, difficile però divertente, cioè è stato un giocone bello e poi c'aveva anche la sua parte un po' creepy, insomma, tutto sommato era, se eri bambino un po' ti faceva pure sti robot assassini, insomma, dai. Insomma, l'unica cosa positiva è che era un po' colorato, perché se no, se fosse stato scuro sarebbe stato peggio, insomma. Dai, comunque vedendo la mappa sotto che piano piano lui sta creando, scoprendo le varie stanze, no? Era comunque abbastanza grande poi, cioè nel senso, cioè era soltanto un'unica mappa che è grande da scoprire o c'erano più quadri? No, guarda, io quello che mi ricordo, e poi non ti so dire bene perché ho detto non l'ho mai finito, però oltre a essere grande la mappa era su livelli, perché come vedi tu poi ovviamente prendevi l'ascensore, scendevi, salivi, e quindi alla fine si creava un po' una sorta di mappa, ma penso che tutto il riquadro verde fosse tutto il gioco poi fondamentalmente, però ho capito. E poi immagino che come tutti i giochi bastardi dell'epoca, quando morivi ti attaccavi, cioè nel senso dovevi iniziare da capo, sì, non è che c'erano checkpoint, sai, non che esisteva niente di tutto ciò, no? Sai, questa è una bella domanda, non me lo ricordo, devo dire la verità, però quasi sicuramente sì, cioè, non... Beh sì, dai, se non l'hai finito secondo me significa che magari una certa morivi. No, infatti non credo c'erano checkpoint, perché penso che il concetto... c'erano, sai, il momento password, capito, mettevi la password. No, quelle sono cose, penso che sono uscite fuori dopo, quando sono eccessive. Con le console che magari non avevano i salvataggi o le schede di salvataggio e ti davano comunque delle password che ti agganciavano a quel livello dove eri arrivato, insomma, diciamo così. Però diciamo che i salvataggi è roba che arriva dopo, insomma, secondo me nel... sì, infatti per quello dicevo, sai, o password o una sorta di checkpoint, insomma, quindi immagino c'avevi tipo tre vite e finite le tre vite iniziavi tutto da capo, immagino. Presumibilmente sì, penso di sì. Immagino che erano quei giochi cattivi dell'epoca. Comunque questo qui io ce l'ho presente, non credo di averlo mai giocato, o solo una volta, non so se era uscita anche sul DOS, forse una volta l'ho giocato versione DOS, ma l'ho giochicchiato perché penso di essere morta male subito e io ho poca pazienza, come ben sapete, e quindi era tanto per curiosità, poi, perché comunque è molto famoso. Che poi permettimi Deborah, perché poi non è manco vero, perché tu hai giocato, cioè tu stai giocando a Chernobyl, che io l'avrei mollato, ti assicuro, l'avrei mollato 3 minuti dopo averlo iniziato, 3 minuti. Senti, sto rosicando, non riesco a fare quell'enigma della cassaforte e quindi non riesco ad andare avanti e ho paura che dovrò bloccarlo per colpa dell'enigma della cassaforte, sto impazzendo con quell'enigma. E rosico perché ormai non mancava tantissimo alla fine, quindi cioè no. Vedremo. Comunque Giuliano dice, aggiungo anche Mega Man 3 per NES, peraltro difficilissimo, e Super Street Fighter 2 per SNES, capace di farmi appassionare picchiaduro, genere a me avverso. Vabbè, bellissimo, gli Street Fighter sono bellissimi, veramente. Va bene, comunque questo Impossible Mission è del lontano, che non abbiamo detto, 84. Di quant'è. 84, sì. E tu l'avevi giocato proprio sul Commodore, sì, questo? Sì. Poi dopo racconterò una storia sul Commodore, cioè legata a un gioco, perché poi alla fine ho scelto quel gioco, insomma. Però sì, comunque l'ho giocato sul Commodore 64, poi allora, cioè, voglio dire, non ve lo sto neanche a raccontare che c'avevi 10.000 cassette con 10.000 giochi, però poi alla fine giocavi sempre i più belli, questo sicuramente. Beh sì, alla fine, sai, gli altri magari li provavi una volta ogni tanto, però poi uno si fossilizzava su quelli belli, come facevo io con l'Amiga alla fine. Allora, Newpic dice: la mappa cambiava ogni volta che ricominciava una partita, quindi non c'era modo di riciclarla. Ah, ok, quindi era procedurale, ok. Era procedurale, wow. Interessante. Comunque ci ha avuto dei porting per Amiga, sicuramente. Sto vedendo così, tanto per così al volo vi do questa informazione. Sì, c'è su Commodore 64. Hanno fatto anche la versione per la Wii, Atari 7008, Acorn Electron e altro. Non so cosa intenda per altro, vediamo un attimo. Altro è un po' generico. Apple anche su Apple è uscito a quanto pare. Vabbè, altri comunque... PC, quindi sì, io ho giocato, mi sa, una volta una versione DOS. Sì, dai, comunque devi considerare che questi gioconi, i super giochi, cioè alla fine comunque quando... Siccome non è che esisteva il concetto di esclusiva specifica, se un gioco era bello veniva comunque trasportato sugli altri sistemi, e di solito trasportarlo su altri sistemi significa riprogrammarlo da zero, perché chiaramente ogni computer e ogni sistema c'aveva il suo linguaggio, c'aveva insomma le sue caratteristiche. Però ecco, certo, diciamo era che... un lavorone proprio ogni volta. Sì, sì. Immagino di sì, bello. Bene. Ah, sempre Newpic dice: io ricordo che disegnavo la mappa su un block notes per segnarmi cose che avevo lasciato indietro, ma poi l'ho giocato per anni su uno schermo bianco e nero ed era un casino quando c'era da comporre il puzzle. Vedi, c'erano proprio anche puzzle a quanto pare. E invece Luca dice: posso aggiungere un Kung Fu Master, che ormai non sono più riuscito a trovarlo. È magari complicato, sì, forse su eBay lo trovi, ma forse prezzoni impressionanti, non lo so. Bene, passiamo al mio decimo gioco, che è stato veramente l'ultimo che ho messo e non riuscivo proprio a trovare questo decimo gioco. Ero veramente indecisissima fino all'ultimo secondo, e però alla fine ho detto no, guarda, ci sta bene perché mi sono divertita tantissimo. È stato il primo della saga che ho giocato. Ho giocato tutti questi giochi di questa saga, ho recuperato i primi due con voi in live, che sono in verità molto diversi, e dal terzo in poi che diventa quello che conosciamo tutti, ossia il bellissimo e divertentissimo Far Cry 3. Cioè, per me questo deve stare per forza nella... non potevo non metterlo. Allora, non l'avevo messo in verità, erano quei due posti mancanti che ti dicevo, però no, cioè non posso non metterlo, perché mi sono divertita tantissimo. L'ho giocato su Xbox 360 insieme a Gabriel, e mi ricordo che poi a una certa io dovevo andare al lavoro a prendere treno, e la mattina magari prima di andare al lavoro con Gabriel comunque facevamo un'altra oretta, poi rosicavo perché volevo continuare a giocare, invece dovevo andare a piazza sto cacchio di treno, non vedevo l'ora di ritornare a casa, che magari c'era ancora lui che mi veniva a prendere, continuavamo la sera a giocarci. Perché questo gioco mi sono divertita troppo a giocarlo, e la cosa più bella in assoluto, al di fuori della giocabilità dei Far Cry, che ripeto, a me proprio divertono tanto, mi piace esplorare, mi piace fare missioni, andare a prendere gli avamposti, poi a me piace proprio fare tipo, che ne so, buttarmi a capofitto, no? Nel senso, vado de pompone, de molotov e ammazzo tutti, spesso muoio male, ma mi diverto proprio andare così a 2000. Mentre se ci gioca Gabriel diventa stealth, la cosa è un po' più una palla. Infatti quando gioca lui due palle, perché ci va de fucile da cecchino, ci va de arco da lontano, a conquista un avamposto senza che la gente se ne accorga che c'è sta lui praticamente. E invece io vado molto più, capito, molto Rambo, capito, ammazzo tutti così e mi diverto così. E quindi al di fuori della giocabilità che mi diverte tantissimo, quindi io gioco tutti i Far Cry perché sono sempre belli, anche se questo qui secondo me rimane il migliore. Ma rimane il migliore, ripeto, uno perché è il primo che ho giocato, e due perché io adoro Vas Montenegro. Cioè, secondo me questo è il cattivo della storia dei videogiochi. Cioè, è troppo gagliardo, e la cosa assurda di questo gioco, cioè, lui l'hanno messo anche in copertina, ma non è il vero villain. Cioè, il vero villain è sto tipo qui, che io non mi ricordo manco come cacchio si chiama, che abbiamo visto poco fa, che è il boss finale, poi questo qua. Cioè, a lui lo affronti prima. Questo è il cattivo, che non è, cioè, veramente Medioman, è nullo, non ti ricordi manco come si chiama. E infatti in copertina c'è lui perché è una figata, cioè Vas. Per me lui è il cattivo del gioco, non quell'altro che manco mi ricordo come cacchio si chiama. Però, ripeto, mi sono divertita un sacco, non vedo l'ora che esca sempre un nuovo Far Cry. La cosa divertente è che li fanno uscire sempre verso febbraio, che io sono nata a febbraio, e quindi tendenzialmente è il mio regalo di compleanno, il Far Cry nuovo. e quindi mi diverto veramente tantissimo. Dicevi Simone, perdonami? No, non mi ricordo. Parlo troppo. No, ma poi è Discord che c'ha sto problema. O parla uno o parla l'altro, un po'. Però vabbè, comunque non mi ricordo. Comunque stavo di sicuramente una stupidaggine. Però, ma tu l'hai giocato questo? No, io i Far Cry non li ho giocati. Proprio è una cosa. Non mi appartengono. Io invece ti consiglio di recuperare i primi due. Onestamente non mi hanno fatto impazzire, perché la giocabilità è proprio diversa. Perché erano altri anche gli sviluppatori, poi è passato in mano a Ubisoft ed è diventato il Far Cry che conosciamo, insomma. Quindi io ti consiglio comunque dal terzo, e poi per me il terzo è il più bello in assoluto, proprio senza pensarci due secondi. È molto bellino, dai, il quarto. Il quinto all'inizio non mi aveva convinto, ma il finale è meraviglioso. E mo il sesto, sì, dai, alla fine mi sono divertita. Ho giocato anche a Primal, ho giocato anche a sorta di DLC, diciamo, del quinto. Li sto giocando veramente tutti, non vedo sempre l'ora che ne esca un altro, perché mi diverto veramente tanto. Beh, mo era uscito quello con Salvatore Esposito lì. Esatto, quello lì è il sesto. Sì, il sesto, che ho giocato l'anno scorso con Gabri, e che sì, nel senso, non mi ha fatto impazzire. Vabbè, mi piace Esposito come attore, mi sta simpatico, insomma, un bravo attore, però mi ha coinvolto un po' di meno, anche perché hanno tolto la parte della caccia, dove tu devi andare a caccia degli animali per costruire, che ne so, il fatto che puoi portare più armi, il fatto che puoi portare più munizioni. Però è stato comunque divertente, insomma. Non quanto gli altri, però mi sono divertita alla fine. È sempre divertente, insomma, esplorare l'isola, ammazzare il dittatore di turno, ecco. Sì, no, ma infatti, no, devo dire che, vabbè, a parte che non l'ho mai giocato, ero tentato questo qua, l'ultimo Esposito, perché per me lui è un attorone, cioè proprio è forte, mi piace. Sì, è bravo. Tra l'altro, una curiosità, che lui ha nome e cognomi italiani, in realtà è di nazionalità scandinava, ma poi alla fine comunque è decolore, quindi non si capisce bene. È un mix. È un grande, veramente un grande. Comunque l'ho visto anche recitare in italiano in un cortometraggio siciliano, insomma, devo dire che è uno che si presta ed è veramente bravo, forte. No, ma infatti è stato molto bravo anche nel gioco alla fine. Poi si vede che lui, quindi, ha fatto bene, insomma, col motion capture, insomma, si vede che è proprio lui da chilometri, quindi interessante. Però su me è poco carismatico. Ad esempio, un Pagan Min, che è il cattivo del quarto, è molto più carismatico. Ovviamente, vabbè, Vast, ti ho detto, il numero uno. Anche il cattivo del quinto c'ha un suo carisma, con tutta questa setta religiosa particolare. E l'ho trovato un po' piatto invece il personaggio del nostro amico Esposito, onestamente. Quindi un po' carente dal punto di vista del carisma del cattivo dell'ultimo, a mio avviso. Sì, diciamo. Però grande serie comunque in generale, questa, sì, qua. Diciamo che quella della setta religiosa mi sembra un po' una storia trita, no? Cioè, nel senso. Però in verità il finale, che non voglio spoilerare, ovviamente, è bellissimo. La bambina muore. Cioè, la bambina muore. Sempre la bambina muore. Ma quello è ormai un classico. Esatto. Allora, recupero un attimo i commenti. Allora, Mr. Zero dice: quando ero piccolo ricordo che ci ho lasciato un capitale nei giochi gabbinati, soprattutto a Street Fighter. Eh sì, ma penso un po' tutti noi, veramente. Io andavo da mio padre, ma dai mille lire, per giocare a Street Fighter, a Puzzle Bubble, eccetera, eccetera. A Metal Slug, capirà, Metal Slug duravi niente, morivi male. Poi Newpick dice: sì, c'era proprio il puzzle con i pezzi da comporre, i colori ti aiutavano a metterli insieme, ma in bianco e nero era un delirio. Beh, sì, se i colori aiutavano ed erano fondamentali, in bianco e nero era un delirio, sì. Mo si spiegano tante cose. Giuliano dice: porca miseria, come ho fatto a dimenticarmi di lui, Donkey Kong Country per SNES. Perché, Giuliano, è molto difficile fare una top 10, è veramente, veramente difficile. Newpick dice: voglio sentire Pizzi rosicare nel sentire Ubisoft dopo Impossible Mission. Al dice: il primo gioco del Commodore 64 è l'unico che avevo, appena me lo regalarono lo giocavo sul vecchio Filco in bianco e nero e mi ero bloccato sempre nello stesso quadro. Luca saluta Gabriel. Gabriel te saluta, no? Gabriel sta nel suo mondo. Esatto. No, lo saluto pure io, Gabriel. Ciao, Gabriel. Dopo glielo dico che lo salutate. Poi, giocando a colori, ho capito perché i piragni nell'acqua in bianco perché nero non si vedevano. Mister Zero ha detto: mai giocato a un Far Cry? Guarda, ripeto, recupera dal terzo in poi, i primi due sono evitabili a mio avviso, recuperati con voi, ma non mi hanno fatto impazzire. Quindi dal 3 in poi invece sì, soprattutto il terzo, recuperalo che è troppo divertente. Mattia dice: ne butto là qualcuno a caso in ordine sparso: Bioshock, Mafia, The Witcher, Max Payne, Pro Evolution Soccer 5, Championship Manager 93-94, Half-Life 2 e Mass Effect. Poi ho escluso le avventure, se no monopolizzare verso la classifica, anche se una menzione speciale per Marcus Ritter. Vabbè, Marcus Ritter, guarda, quasi quasi ero tentata anch'io in questi due che mi mancavano di metterlo comunque al decimo posto, però ho detto vabbè, forse Far Cry 3 se lo merita un po' di più, ma ero tentata comunque. Mattia dice anche Splinter Cell. New Pick, beh, dal terzo hanno cambiato proprio impostazioni, i primi due erano strutturalmente diversi, il secondo parecchio pesante, ma va un suo fascino. Il secondo infatti è stato un po' complicato, questa cosa che lui si ammala di malaria e ogni volta devi pia la medicina ogni tot missione, è un po' una rottura de palle onestamente. Poi il suo filtro marrone era inguardabile. Sì, no, ti giuro, mi sembra che il vero nome sia Aztec. Nella mia cassetta il nome italiano era tipo Storia Azteca, Aztec Challenge. Sì. Ah sì, ho capito qual è Aztec Challenge, sì. Ho presente. Iniziava con un tipo che correva verso una piramide con le frecce che arrivavano a destra e da sinistra. Sì, sì, ho capito, è quello. Tu considera che Aztec Challenge c'aveva la sua versione, ovviamente, in edicola, quella, insomma, Program, Special Program, Play Game, tutte queste riviste che uscivano in edicola negli anni Ottanta, che la versione che trovi in cassetta, che ovviamente era piratata e tradotta in italiano perché allora si poteva fare, si chiamava Montezuma. Così. Ah, è vero. Però c'ho presente pure la versione Montezuma. Forse l'ho visto in entrambi i nomi. Probabilmente. C'ho presente sia Aztec Challenge che Montezuma. Sì. A meno che magari poi c'è un altro gioco che si chiama Montezuma. Può essere pure quello. No, no, però mi ricordo che fu tradotto con Montezuma, che per me il gioco si chiama Montezuma, perché io ho conosciuto prima quella versione lì. Poi dopo ho visto: ah, guarda, prendite questo gioco, Aztec Challenge, è figo, eh. Ma questo è Montezuma. Dice, ma è quell'altro. Chi ha copiato chi in questo caso? Maledetti. Maledetti. Ah, comunque l'ultima cosa voglio dire su Far Cry è il doppiaggio. Doppiaggio stupendo di Far Cry 3. Dove Vass è doppiato veramente da Dio. Che addirittura l'attore originale, che ha dato anche il volto a Vass Montenegro, ha fatto i complimenti al doppiatore italiano perché è stato bravissimo. Grande doppiaggio italiano di questo gioco. E doppiato molto bene anche il quarto, dove Pagan Min è doppiato dall'immancabile Claudio Moneta. E anche il quinto, se non sbaglio, è doppiato. Invece il sesto non l'hanno doppiato e ho rosicato. Sì, perché cacchio, li doppi tutti e il sesto invece non l'hanno doppiato. Questa cosa mi ha fatto un po' storce il naso. Anche perché sono sempre doppiati bene comunque. Sì. Devo dire che è stata una scelta strana. Evidentemente l'ultimo capitolo, il capitolo precedente, non aveva riscosso particolare successo in Italia. Perché comunque in generale oggi, se tu consideri che hanno doppiato Final Fantasy XVI, che saranno, boh, penso, centinaia di ore di doppiaggio, che doppiare in italiano significa miliardi di dollari, quindi insomma, fa un po' strano il fatto che non l'abbiano doppiato. Ci sono rimasto strano pure io, in effetti. Comunque, vabbè, poi anche devo. Perché poi, ripeto, è doppiato comunque da professionisti, non da putrella, insomma. Capito? Cioè, da gente che lo fa. Io li sento spesso doppiare cartoni, film, cioè tutta gente così. Ad esempio, il protagonista di Far Cry 3 è quello che doppia Yu-Gi-Oh! Il puzzle del millennio, non so se l'hai mai sentita. No. Doppia un sacco di personaggi, anche a Skyrim addirittura fa dei personaggi secondari. Insomma, si becca spesso quel doppiatore, quindi tutti i doppiatori professionisti. Sì, diciamo. Va bene, passiamo oltre, sennò poi noi ci dilunghiamo troppo. Esatto. Diciamo che prende un esempio su tutti: Prisoner of Ice. Che insomma, che putrella, esatto, praticamente. Prisoner of Ice. È lui. Oppure, come si chiamava quell'altro? Aspetta, quello della malattia santematica lì. Mannaggia, mi sa che adesso non mi viene. Vabbè, Nocturne, mi pare. Sì, ok. Che pure quello. Ma guarda, ce ne so anche Hitman, è doppiato malissimo. Di considerare che su Nocturne c'è a un certo punto una scena lui che entra dentro e c'è la tipa seduta: Mucchizzi salverà dalle forze del male. Sì, che quel che parla tutta così, tipo bolognese. Esatto. Vabbè, lì era proprio della serie. Oh, raga, chi è che sa l'italiano qua? Sì, ok. Vabbè, senti, a Prisoner of Ice, oltre a putrella, c'è quello raddoppiato in romanaccio. C'è sta una, tutto così in romanaccio. Quanto riso anche lì, è stato un bel momento anche quello. Sì, sì, che poi, no, per esempio su Sam & Max della Lucas era voluto, no? Come tipo di scelta quella dei dialetti. A volte invece erano proprio incapaci, insomma. Vabbè. No, a volte perché sì, prendono gente così per strada, sì, e dicono, sì, senti, vuoi doppiare sto pezzo? Io sono convinto, la segretaria che dice, guardi, io stacco, adesso vado a casa. No, aspetta, devi registrare sta cosa. Di sta frase. Vabbè, comunque, nono Vai, posto. Passiamo al tuo nono posto. Nono e posto. Qui, sempre più o meno sto periodo, più o meno. Beh sì, diciamo che è uno dei due giochi moderni che ho inserito in questa classifica fondamentalmente, esatto. E anche qui la scelta è strettamente affettiva ed è Mass Effect, diciamo tutta la saga, però in particolare il primo, perché secondo me il primo ha rappresentato, diciamo, il sogno moderno di quello che non è stato Knights of the Republic, si era sempre della BioWare, sempre questo tipo di gioco di ruolo qua, però ambientato ovviamente nel mondo di Star Wars, che però purtroppo subiva, diciamo, il limite degli anni in cui era stato sviluppato. E secondo me con quell'esperienza qui, BioWare, che ancora era abbastanza BioWare, perché ovviamente voi sapete che c'è un momento in cui BioWare ha smesso di essere BioWare, hanno fatto questo Mass Effect, che ha una radice narrativa molto forte, è un omaggio al sci-fi in generale, cioè nel senso comunque alla fantascienza proprio più classica, è proprio un atto d'amore fondamentalmente, tant'è che in realtà il gioco e la storia, nonostante essere abbastanza affascinante, si basa su dei stereotipi ben precisi, comunque il capitano Kirk dalla situazione, poi alla fine se vai a vedere, insomma, alla fine John Shepard quello era, no? Che poi se le trombava tu, era ci guardi, siamo a 10 minuti dall'estinzione di tutto il genere umano, ah vabbè, senti tu che fai stasera, perché poi... Vabbè, quella è una cosa che faceva anche Picard comunque, esatto, tutte, sì, Kirk, tutti gli alieni, tutte se le fa. esatto, e questa cosa poi, insomma, però... È nel contratto del capitano, insomma, te devi fare tutte le razze aliene. Il capitano deve avere una posa plastica quando sta seduto sulla poltrona, che è la prima cosa, insomma, fondamentale, e poi deve ovviamente tacchinare gloriosamente. Comunque, allora, a me una cosa che... Allora, perché ho messo Mass Effect? Mass Effect è stato l'unico gioco nella mia vita, l'unico gioco che mi ha fatto comprare una console. Cioè, non mi è mai capitato. Ah, quindi tu hai comprato... Io ho comprato l'Xbox per giocare a Mass Effect. Quindi è stato... Ero talmente intrippato questo gioco che tutti ne parlavano... Ogni tanto vedevo qualche video, poi c'era il mio amico Marco Gualdi che me ne parlava, no, mamma Sef, che alla fine io ho comprato questa benedetta Xbox, che tra l'altro è durata il tempo sufficiente per finire Mass Effect, perché poi dopo ho fatto il famoso anello rosso della morte, insomma. Oddio, no, a me fortunatamente né a me né a Gabri l'ha mai fatto, no, quel problema, fortunatamente noi l'abbiamo veramente fuse l'Xbox, guarda, no, quindi a noi ci è andata bene. Una cosa terribile, perché poi mi ricordo che comprai Mass Effect e un altro JRPG da un autore della serie di Final Fantasy, che adesso non ricordo come si chiamava, era, vabbè, comunque un gioco sempre proprio stile Final Fantasy lunghissimo, che pure quello era arrivato a tre quarti del gioco e si è squagliata per la seconda volta. Allora lì l'ho presa e l'ho buttata direttamente dal terzo piano, quindi non ne ho più avuto. Comunque Mass Effect l'ho presa, appunto, l'Xbox l'ho presa per Mass Effect, e la cosa che mi colpì di più di tutte era la colonna sonora, prima di tutto, perché aveva questi suoni molto, molto space oriented, cioè mi dava proprio il senso di spazio, di mistero, di sconosciuto. Era bello, secondo me non è facile che una colonna sonora sia così calzante col senso di esplorazione, no? di spazio. Poi il gioco c'aveva tanti limiti, soprattutto quando dovevi esplorare i pianetini con la macchinetta che te ribartavi, te cosavi, poi arrivava il vermone de Dune, insomma, tutta una serie di cose che alla fine erano... Il gioco era molto macchinoso fondamentalmente, però era ancora un gioco di ruolo, quindi... Tutto sommato questo misto tra molto ibrido tra action e RPG a me mi è piaciuto tanto. Però ecco, poi a te piace tanto l'ambientazione spaziale, tutto, esatto, ciò che ha a che fare con lo spazio a te piace, esatto, quindi... esatto, sì, infatti la musica, l'ambientazione e anche diciamo, mi piaceva proprio questa idea, a parte che comunque c'era tutta una lore dietro, perché io leggevo il codex, lo leggevo tutto, cioè mi piaceva leggere, c'erano tutte cose insomma sull'energia oscura, su cose insomma che poi alla fine comunque in qualche maniera nella storia si ricollega, però poi dopo dal secondo al terzo sputtano un po' tutto, però fa niente. E la cosa che mi piaceva era proprio questo fatto che l'umanità si approcciava per la prima volta a questa comunità più ampia che era la comunità galattica, quindi tutti li guardavano come gli ultimi arrivati, i pezzenti, sono arrivati questi, ora un po' il cazzo, fanno un casino, sono tutti stupidi, insomma, poi alla fine era questo il senso che è. E quindi mi piaceva tantissimo, l'ho amato tanto Mass Effect, l'ho giocato, tra l'altro l'ho giocato, poi lo rigiocai anche su PlayStation 3/4, non ricordo quale delle due, perché quando cadde l'esclusiva ovviamente Microsoft, poi lo pubblicarono anche su PlayStation, tra l'altro con la nuova versione della Real Engine, quindi tutta la grafica migliore, insomma, la qualità superiore, insomma, e vabbè, poi l'ho finito tutti e tre, e vabbè, poi c'è pure questa cosa della figura cristologica di lui, che lui era proprio l'eroe proprio più standard dell'universo, che poi alla fine si sacrifica per l'universo, insomma, quindi vabbè, questo si può dire perché tanto si sa, insomma, che è così. Tu devi solo decidere. Sì, si sa, perché praticamente poi tutta la gente è rimasta male del finale di Mass Effect 3, no? Sì, tra l'altro. Ricordo questa cosa, che tutti erano rimasti malissimo, avevano chiesto di cambiare il finale perché c'era stata una sorta di petizione addirittura, se non sbaglio, no? Perché erano rimasti tutti male da sto finale, che non era piaciuto. Sì, diciamo che il primo finale non era piaciuto perché era un po' troncato, no? Poi non c'era, tutti dicevano non ci sono le battaglie spaziali, le cose. In effetti, cioè, nel finale in cui si sta arrivando, succede di tutto, cioè non avete le scene epiche all'interno del e quelle poi le aggiunsero e devo dire che hanno arricchito. Ora poi il finale è rimasto comunque quello, no? Cioè, alla fine tu sapevi che tu dovevi solo decidere in che maniera e verso che direzione doveva sacrificarsi, verso una cosa piuttosto che un'altra. Però ecco, diciamo che bello, a me è piaciuto, dai, mi sono divertito, secondo me ha mantenuto l'atmosfera, quella che mi piaceva di più che la storia, che come ho detto poi alla fine era un po' Mi ricordo se era doppiato in italiano o meno. Sì, tutti e tre, sì. Tra l'altro c'è una storia particolare, perché il protagonista, John Shepard, è doppiato da Claudio Moneta, può essere? Adesso non ricordo. Ma sempre lui, ma che cazzo. Esatto, però lui ha doppiato il primo e il terzo, perché nel secondo presero un doppiatore con una voce molto simile, però non la fece lui, perché lui ebbe un incidente gravissimo con la moto e praticamente è stato tipo sei mesi, quasi un anno praticamente, non dico immobile, ma insomma quasi, insomma, e quindi alla fine pensavo, perché nel mentre stava doppiando altre 60 cose lo sfragnamento sfragnato Moneta, poraccio, esatto. Moneta, perché pensava di essere John Shepard, forse si è sentita calda come Shepard, sì, può essere. Comunque Maria dice bellissimo Mass Effect, vedi. Mr. Newpick dice calma. Simone, ti ricordi il suono dei razziatori? Era tipo Inception, sbram. Ogni tanto lo mettevamo a caso nelle nostre trasmissioni. È vero, assolutamente. E vero. Poi dice sì, è Moneta. Sì, è vero, il suono dei razziatori. Io penso che l'ho sentito prima in Mass Effect e poi in Inception. Cioè, non lo so dire. Tra l'altro, secondo me è più attinente su Mass Effect, cioè perché su un film dove c'è stato questo incrocio dei sogni, della realtà sogni, insomma, poi voi sapete, io adoro Nolan, quindi per me e secondo me dal punto di vista sonoro non c'entrava manco niente, però insomma, dai, diciamo comunque sì, noi ogni tanto lo mettiamo a casaccio su Calavera Caffè perché io ci stava bene, no? ci divertiva così, sì. Allora, io di Mass Effect posso dire ben poco, perché l'ambientazione spaziale non è delle mie preferite, come sapete, tranne qualche raro caso tipo Dead Space. Però ho visto all'epoca, quando era uscito su Xbox 360 il primo, e mi ricordo che la grafica mi impressionò, cioè ho guardato e ho detto oddio, cioè bellissimo, sembra reale, gli alieni sono fatti benissimo, stavo lì tipo con la bava, no? Vede quant'era bella la grafica. Però mi ricordo anche che mentre questa persona che ci stava giocando, tutta emozionata, io mi sono fatta due palle e mi sono addormentata alla grande. Diciamo, non fa proprio per me, anche se ammetto sì, insomma, che gran lavoro, assolutamente, ripeto, graficamente top, però diciamo, non è nelle mie corde, quindi mi sono fatte belle dormite mentre ci giocava. E, però ad esempio anche a Gabriel piace tantissimo, lui adora questa trilogia e, veramente tanto, quindi io diciamo non faccio testo perché, ripeto, l'ambientazione non è delle mie preferite, quindi sicuramente non mi aiuta, però tanto di cappello per il lavoro che hanno fatto, lavorone insomma, quindi bene così. Sì, no, l'unica cosa è che essendo proprio un omaggio veramente a un certo tipo di sci-fi, diciamo che si è sempre paventato e si è sempre parlato negli anni che avrebbero fatto prima o poi un film su Mass Effect, una serie televisiva, tra l'altro la serie televisiva che è ricicciata fuori proprio recentemente come probabile opera, dato che comunque stiamo vedendo che tra The Last of Us, Fallout 3, sì, Fallout in generale, no, Fallout 3, e comunque alla fine anche HBO si sta mettendo in mezzo a fare queste cose, poi sai, dipende sempre chi è che produce l'opera, no? Perché sì, diciamo basta che la fa Netflix già. Esatto, esatto. No, vedete che su questo sono abbastanza d'accordo, anche se poi a me tutto sommato per esempio The Witcher non mi ha fatto schifo. È che non c'entra tanto, cioè nel senso. No, io mi sono rifiutata di guardarlo a priori. No, io l'ho guardato, lo sto guardando, adesso c'è la terza stagione. Poi hai visto lì il protagonista che ha detto che non farà più Geralt. E c'ha ragione lui, perché hanno sminchiato tutto. E quindi Henry Cavill, che oltre a essere un bonazzo e anche bello nerdone, ha detto chi vese in cola. C'ha ragione. Ed è vissuto a Monterotondo per un periodo di tempo. Vedi sto cose, perché noi come diciamo vissuto a Monterotondo, sì, ma davvero. È incredibile, ma vero, sì. È una cosa. Perché voi dovete sapere che noi nei nostri podcast, la nostra web radio, tutti dicono, vabbè, ma stai sempre a parlare di Monterotondo come se fosse il centro del mondo. Ma in realtà Monterotondo è il centro del mondo. Tutte tutto. Le strade portano a Monterotondo. Esatto, esatto, esatto. Vabbè, no, comunque. Vabbè, che Henry Cavill sta a Monterotondo, oddio. No, è stato, wow. è stato quando lui, c'è stato un periodo in cui era a Roma fondamentalmente, però lui alloggiava qui, insomma. Poi non posso raccontare altre cose perché insomma, poi mi querellano. Ok, allora vado al mio nono posto. Yep. Che è una saga. Io tutte saghe sto portando, non so perché. Questa qui in verità l'ho messa tutta. Non ho scelto uno specifico, anche se il mio preferito in verità sono gli ultimi due usciti. Spero sempre che ne usciranno altri, perché lo gioco ormai da tanto. E è un gioco che è uscito prima su DS, poi gli altri successivi sono usciti sul 3DS, e questi Chronicles sono usciti sulla Switch. Sto parlando di Ace Attorney, che è meraviglioso. Ace Attorney, che al momento potete trovare anche su Steam, perché è uscito poi, ecco, nel 2019 hanno rilasciato la trilogia iniziale qui su Steam di questa saga che io adoro alla follia. Non so se la conoscete, se l'avete giocata, dove praticamente noi l'ho anche condivisa insomma su Telegram nei consigli della sera, vi ho consigliato tutta questa saga di Ace Attorney, dove praticamente il protagonista di la maggior parte dei titoli è Phoenix Wright, questo che vedete qui. Ovviamente questa è una grafica comunque rifatta, perché quella del DS era molto più quadratosa, diciamo, pixellosa, e dove noi siamo un avvocato difensore, e quindi noi dobbiamo fare ogni gioco ha 5-6 casi più o meno, sono tutti molto lunghi come casi, e la cosa interessante è che c'è una varietà di personaggi infinita, come potete vedere anche qui insomma in questo trailer, e ogni personaggio ha la sua caratteristica, ognuno ha il suo modo di comportarsi, sono tutti caratterizzati molto bene, non soltanto visivamente, quindi fisicamente, ma anche come carattere proprio del personaggio. Quindi noi dobbiamo andare in giro, trovare le prove varie, perché noi dobbiamo difendere sempre uno che è tendenzialmente accusato di omicidio. La maggior parte delle volte sono accusati di omicidio o tentato omicidio praticamente, e quindi noi dobbiamo trovare il modo di difenderlo quando tutte le prove in verità danno quasi per spacciato lui, cioè il nostro cliente dice no, vabbè, è stato lui, ci sta questa prova, c'è questa prova, c'è questa prova, ci stanno i testimoni, è impossibile da salvare. Quindi sembra che lui invece riesca a fare poi il miracolo ogni volta Phoenix Wright, e quindi riesce sempre poi a trovare il modo di trovare l'indizio, la cazzatina, no, che dice no, ma vedi qui, ecco, ho trovato sta cazzatina che è fondamentale. E la cosa divertente è poi soprattutto stare in aula, dove devi interrogare i vari, non soltanto, a volte anche l'accusato stesso viene interrogato, ma vengono poi interrogati i testimoni, e a seconda delle cose che dicono e gli indizi che tu hai trovato in giro, devi trovare il fatto che stanno mentendo, che stanno dicendo delle cose che però poi non hanno molta congruenza con magari quello che hanno detto precedentemente, o che l'ha detto un altro testimone, o una cosa che hai trovato te, obiezione, vedi, obiezione, quindi tu fai l'obiezione e dici no, non è vero. E quindi piano piano tu riesci a dimostrare che è innocente il tuo cliente, e ripeto, anche tutti i suoi nemici, che praticamente sono gli avvocati di accusa, sono sempre molto carismatici, molto belli. E ripeto, vabbè, questo è con Phoenix Wright. Poi invece ci sta Apollo Justice, quindi sono sempre della Ace Attorney, si chiama, però Apollo Justice praticamente è questo qui, che è un altro avvocato di di difesa, scusate. Ci sono questi episodi con Apollo Justice, che sono questi qui così, eh? Questa è bella, la versione del DS, vedete, è leggermente differente, insomma, la grafica che abbiamo visto poco fa. Non riesco a trovare Apollo. E eccolo, Apollo Creed. Apollo, eccolo qua, questo qui praticamente, però praticamente è la stessa cosa. E poi invece ho giocato per ultimo il Chronicles, che in verità è ambientato nell'Ottocento, fino all'Ottocento se non sbaglio, in Giappone, e poi vanno a Londra, quindi è un prequel, diciamo, dove il protagonista si chiama Ryunosuke. E posso dire che questi due, che io ho preso poi la Chronicles, che quindi c'ha gli ultimi due giochi, sono stati lunghissimi, questi sono stati i miei preferiti in assoluto. Cioè gli ultimi usciti sono stati i miei preferiti, bellissimi, casi stupendi, disegni, siccome sono sulla Switch sono migliorati tantissimo, sono così come li vedete. C'è stato addirittura per il 3DS un episodio crossover con Phoenix Wright e il professor Layton, ho giocato anche quello, molto carino anche quello lì. E niente, io questi ragazzi vi li consiglio, però la maggior parte sono in inglese ed è tantissimo testo, perché la base è una visual novel. È una visual novel dove però poi ci sta l'esplorazione e, ripeto, i vari indizi. Quindi tra una visual novel e una, tra virgolette, avventura grafica, più o meno. Però c'è tanto, tanto, tanto testo, tantissimo dialogo, quindi se l'inglese non lo sapete bene, diventa un po' complicato, anche perché dovete capire bene cosa stanno dicendo i personaggi, perché poi per fare in modo di dire no, obiezione, qui sta dicendo una cavolata, non è vero, dovete capire bene che cosa stanno dicendo in quel momento. Quindi sì, ci vuole un inglese abbastanza buono, ecco, però in generale se non avete difficoltà nell'inglese, veramente gradevole, passate tantissime ore a divertirvi. E altra cosa fantastica sono le musiche sono sempre una più bella dell'altra in tutti gli episodi, veramente belle belle belle. Tu Simone lo conosci, ci hai giocato? No, proprio no. E pensi di recuperarlo? Perché poi, se non sbaglio, i primi tre, non so qua su Steam, però erano anche stati tradotti in italiano nella versione del DS, perché mi sembra i primi tre lo giocano in italiano e poi tutti gli altri in inglese, se non erro. No, devi considerare che per me il gioco su dispositivi, tra virgolette, portabili, diciamo così, insomma, non mobili, però l'ho sempre trovato fastidioso, non ce la faccio, più forte di me, ma proprio è un mio limite, cioè non è che è una questione di... E quindi ovviamente ne ha risentito magari la scelta di tanti titoli, ecco, tipo questo, ma anche Layton, cioè zero proprio, tutta la cosa che è completamente assente nella mia vita, insomma. Però magari sì, un'occhiatina, sai, poi alla fine io... Insomma, se uno mi dice ah, provalo, io provo, se posso, ovviamente, perché dovrei rimediare un dispositivo Nintendo, però insomma, in qualche maniera. Ma vabbè, adesso però vedi, i primi tre li puoi fare qua. Ah, ecco, vedi, su Steam, hai ragione, scusa. Sì, i primi tre li puoi fare qui e dal PC anche. Io in verità è una cosa che trovo veramente comoda, la console portatile, perché io tutti quelli su DS e 3DS li ho giocati quando andavo al lavoro, quindi sul treno. e mi hanno fatto un sacco di compagnia avanti e indietro tutti i giorni su sto treno, quindi l'ho sfruttato tantissimo. E invece questi qui Chronicles li ho giocati sulla Switch, tendenzialmente, sai, pure a letto, prima di mettermi a dormire, allungata sul letto mi mettevo a giocare a Chronicles. Quindi onestamente io l'ho trovato molto pratico il fatto che fossero portatili, e poi anche col touchscreen viene bene comunque come gioco, quindi non lo so, io invece questo, forse perché sono abituata a giocarlo in roba portatile, mi fa strano l'idea di giocarlo al PC, onestamente. Certo. No, immagino, certo, alla fine poi... cioè, nel senso, se tu sei abituato a vedere una cosa in una determinata maniera, è disorientante vederla in un'altra. Sì, sì, capito. Come, esatto, hai detto anche di Layton. Cioè, comunque tutti i Layton pure li ho fatti sul treno la maggior parte. Quindi sempre col DS, il 3DS. Farlo al PC mi farebbe strano, onestamente. Cioè, sono giochi che per me sono portatili, capito? Quindi mi fa strano vederlo qua su Steam, ecco. Poi vabbè, se c'è lo Steam Deck allora va bene. Diciamo che io per esempio sul treno o leggevo o dormivo, quindi non è difficile. Sì, io o leggevo, sai, oppure facevo parole crociate, o giocavo, ho giocato tantissimo. Io vabbè. Considero io vabbè, sai, quando uno fa un'ora ad andare, un'ora a tornare tutti i giorni per andare a lavorare sul treno, ha voglia a fare roba. Sì, sì, lo so, infatti però il problema è che io proprio sono famoso... Anzi, oserei dire, sono famigerato per essere l'uomo che dorme su qualsiasi situazione. Qualsiasi mezzo. In qualsiasi contesto, esatto. Tant'è che una volta mi sono svegliato e mi sono ritrovato dentro la metro al deposito. No! Con tutto circondato da mura, pareti, con i sciastri là. E sei rimasto lì tutta la notte? No, fortunatamente poi dopo mi sono provato a prendere con i sciastri là con un matto. Aiuto! Esatto. Poteva essere l'inizio di un horror comunque. Sì, poteva essere, sì, è l'incipit di un film, insomma. Comunque, sì. O di un videogioco, anche di questi qui horror in prima persona. Esatto, che mo vanno tanto per la quale. Esatto. E intanto buonasera a Simone Nicolai che è arrivato in ritardo, buonasera. Luca dice non ci si vede come avvocato, non mi vedo Deb come avvocato, ah no, avvocato nella realtà non riuscirei mai a farlo, però qua nel gioco sì, mi piace tantissimo, mi diverto tanto, nella realtà non potrei mai farlo onestamente. Newbik dice sì, i primi tre su DS erano in italiano, ok, anche Apollo Justice, anche Apollo era in italiano, ok. Poi purtroppo mi sono fermato, ma la serie mi piace molto. Sì, gli altri sono tutti in inglese. Qua se ti capita, recupera soprattutto poi questo. Questo Chronicles, ti giuro, è bellissimo. Con le console portatili sono ottimi perché si legge molto ed è bello farlo stravaccati, esatto. Secondo me rischia di essere pesante su PC. Concordo, io ripeto, forse l'abitudine di stare sempre a giocarli su dispositivi portatili, anche quello. Probabilmente mi fa strano, ripeto, vederlo su Steam. Buonasera da Stolfo sulla Luna, buonasera, ho un collega che monta in turno e dorme, io durante i servizi militari mi sono addormentato all'andata e sono finito altrove, oddio dove sei finito? Vogliamo un aneddoto di Pizzi ad ogni gioco, provvedi Deb per favore, cioè l'aneddoto a ogni gioco, quindi qua c'è sta la metro e te che sei rimasto incastrato, quindi sì, al prossimo gioco vediamo che aneddoto esce. Sì, ce ne sono diversi, sì. Ce ne stanno di aneddoti, va bene. Comunque ricordiamo, okay, ricordiamo che Newpick ha giocato la famosa visual novel dei piccioni, dillo, confessa Newpick, dillo insomma tutto il I mondo. I piccioni quelli innamorati? Ah sì, lo conosci pure te? Lo conosco ma non l'ho mai giocato. Terribile. Però se mi dite che è da recuperare, lo recupero. No, io non lo so. Vedi che ride. Vabbè, dai, andiamo avanti. Vai, ottavo. Ottavo, grande. E qui torniamo indietro, signori. Qui torniamo indietro, torniamo, penso, al 90, forse. Più o meno, sì. O poco prima. Allora, questo è stato un grande... Come posso dire? È stato un grande amore per me. Veramente, penso... Parliamo di Loom, della Lucasfilm Games allora ancora. E perché? Perché Loom è stato il gioco in assoluto forse che ho giocato su tutte le piattaforme che ho avuto a disposizione laddove ovviamente c'era. E addirittura a volte anche su diversi, magari sulla stessa piattaforma ma su diversi media. Tipo ad esempio ce l'ho avuto su Amiga, su dischetto, poi ovviamente magari ce l'ho installato sul PC, poi è uscita la versione in CD-ROM... E tu considera che Loom, che è un gioco che nasce multimediale sin dall'epoca in cui era stato pensato, pur magari ancora non c'erano proprio tante tecnologie che permettevano insomma alle persone di sentire l'audio in una certa maniera, era stato pensato con un'audiocassetta quando uscì originariamente, perché tu in determinate situazioni, ovviamente andando play, il play era sincronizzato con l'animazione, con quello che succedeva a schermo, e c'erano tutte le parti recitate, che è la stessa che c'è pure sul CD-ROM, che non è sono piccoli file digitalizzati che partono al momento giusto, cioè sono pezzi recitati con la musica sotto, tipo come se fossero dei romanzi radiofonici, per capirci, insomma, no? E quindi ecco, diciamo che Loom ci ha avuto tante cose particolari. Uno era un fantasy, e allora forse è stata la prima avventura grafica fantasy di un certo tipo. Due era Lucas, quindi per me era comunque una cosa che di per sé andava giocata. Mi piaceva tantissimo la grafica, era una cosa bellissima, coloratissima. Soprattutto quando tu arrivi nella città di Smeraldo, la città verde, che per chi non lo sa, il verde è assolutamente il colore mio preferito. E in generale c'aveva questa cosa dello scam utilizzato in maniera diversa. Cioè, non esisteva la classica interfaccia dei giochi Lucas con i verbi e gli oggetti, ma praticamente c'era questa specie di bastone praticamente che rappresentava poi delle note, e quindi tu interagivi con l'ambiente utilizzando la magia e i suoni. Cioè tu utilizzavi ovviamente i suoni, ogni cosa che tu con la quale tu interagivi aveva una sua melodia, e tu ovviamente quella melodia la memorizzavi e la utilizzavi nella stessa maniera o al contrario per sbloccare determinati enigmi ambientali. La storia, tra l'altro, di Loom non è manco tanto, cioè, fantasy nel senso fiabesco, è anche abbastanza trucula, cioè, tutto sommato, cioè nel senso è abbastanza dark, oscura, e c'è questa cosa della morte, del caos, non ricordo bene che funziona, che squarcia lo spazio, il tempo praticamente per distruggere tutti i mondi, tutte le cose. E tu ti ritrovi ovviamente coinvolto in questa situazione, in questo tuo peregrinaggio. Ovviamente poi arrivi in determinati posti, sempre uno più bello dell'altro. È un gioco particolare, insomma, tutto basato ovviamente sull'enigma musicale, che lì per lì sembra un po' astruso come meccanismo per chi era abituato alle avventure Lucas classiche, però in realtà poi alla fine era bello così. Cioè, io devo dire, a me Loom veramente mi è piaciuto da morire, l'ho giocato decine di volte, insomma, ho detto, anche in supporti diversi. Tra l'altro, con Loom l'aneddoto è che ero talmente infogliato con Loom la prima volta che lo stavo giocando Sonica, che praticamente io ci ho passato la notte di Capodanno. Mi ricordo che praticamente verso tipo le 11:30 di sera mi sono venuti a prendere gli amici miei, perché proprio non si capacitavano del fatto che io avrei passato la notte a giocare a Loom. Quindi sono venuti, io stavo tipo in calzini, in mutande per conto mio, cioè proprio a giocare a Loom. Questi sono entrati, mi sono venuti dentro casa, mi hanno preso, mi hanno praticamente rapito, mi hanno vestito e mi hanno portato via. Però poi tipo vedi che c'è l'aneddoto, esatto, al gioco. Esatto. E il bello è che quando sono tornato verso le 4 del mattino, invece di andare a dormire stanco, mi sono finito Loom. Cioè, dovevo finire Loom. È proprio una cosa. E quindi praticamente tutto in una notte, fatto. Tutto in una notte, sì. E mi ricordo che alla fine l'amico mio che mi riaccompagnò a casa diceva: vabbè, dai, fammi vedere sto Loom. No, così se la messa e si addormentò praticamente sul tavolo dove io stavo a giocare a Loom. E mi ricordo che poco dopo che ho finito delle Loom mi squillò il telefono, era il padre di sto ragazzo, e mi diceva: guarda, ma che Riccardo è lì con te? Dice: sì, digli che è un furfante. Io dicevo: ma che parola è furfante, scusa? È un monello. Io è un birbancione. Vabbè, insomma, questo è un po' un aneddoto di Loom che è legato, voglio dire, a un ricordo, sì, mio personale, perché quella notte ero proprio talmente in foglia, per me era talmente bello quel gioco, ma proprio bello per essere bello, che per me non mi fregava un cazzo il Capodanno, proprio zero. Cioè. Ma sì, ma in generale sti cazzi del Capodanno. Sì, in generale, però sai, quando c'hai 16 anni, 15 anni, adesso manco non ricordo quanti anni c'avevo, o forse nel 90 già con i Chovic 17, quasi 18, insomma, boh, non lo so, però non sono bravo in matematica. Comunque, questo è Loom secondo me è un gioco che comunque va provato se avete giocato gli altri giochi. Poi mi pare che è successivo a Monkey Island 2, se non sbaglio, o addirittura al primo Monkey Island. E però allora qui dice che è del 90. Del 90, Monkey, sì. Island 2 è dopo, però. Ok, quindi vabbè. Quindi tra il primo e il secondo. Più o meno, sì. Sì. E devi considerare che per chi era abituato magari alle avventure di Lucas con l'interfaccia classica, in effetti fu particolare, perché era una cosa un po' diversa, forse qualcuno è rimasto anche spiazzato, però secondo me visivamente era veramente una grande opera. Tra l'altro fecero un seguito che mi pare che si chiama Forge, può essere qui forse Newbie che mi può venire il seguito, sì, che dovrebbe essere anche tra l'altro sviluppato da un team italiano, era un progetto amatoriale credo, cioè nel senso comunque non ufficiale, che però riprendeva ovviamente quello che doveva essere il seguito di lui. Io non ho mai giocato, quindi non mi so dire. Allora leggo un secondo i commenti. Simone dice: oh, Loom. Astolfo Salone dice: Loom l'ho giocato su Amiga, bellissimo gioco. Al dice: DS ne ho tipo 4, forse 5. Io gioco del professor Leto, piacciono molto ai miei figli, pure a me piacciono tantissimo. Luca invece ci saluta, che domani si deve alzare presto alle 6 per lavoro, finirà di vedere la live in pausa pranzo. Grazie Luca di essere stato qui e buonanotte. E Newpic dice: tiè, pia sto bastone, veramente non mi sembra il caso. Cheat scenetta di Calavera prepuntata. Conoscete il Miglio? Mi sta tentando molto, non so cosa sia il Miglio, non so te se lo sai. No. Ricordo che una notte di Capodanno l'ho passata a giocare a Post Mortem, Astolfo ha detto. Mamma mia, che giocone! Noi l'abbiamo giocato in live. Newpy che dice: ecco l'aneddoto, si è messo a ridere, non ce la faccio. E dice: prima di Secret, fra Zack e Monkey. Sì, sì, Forge seguito amatoriale, era bello. Ok. Vedi io ancora. Invece ti dico la mia su Loom, ossia il fatto che ancora non l'ho mai giocato. E è una grave mancanza, lo so, da tanto dico che devo recuperarlo e arriverà quel giorno. E infatti mi sono sempre chiesta questa cosa delle note musicali, no? Perché abituata a apri, usa, tira, prendi, parla, dai. Capisci? Quindi mi chiedevo, cioè, per fare ogni singola cosa devo cliccare le note, cioè nel senso, non è, allora, per fare guarda devo cliccare le note, mi devo ricordare quali note cliccare, cioè questa cosa mi ha lasciato sempre un po' perplessa, capito? Di base praticamente tu non interagisci con l'ambiente così come interagisci con Zack o con Monkey Island, quindi non ci sono oggetti da prendere ad esempio. Tu interagisci con gli oggetti con i quali puoi interagire tramite le note musicali, ossia praticamente tu proprio all'inizio entri dentro una tenda dove c'è un oggetto, cliccando su quell'oggetto, quell'oggetto ti dà una sequenza musicale. A quel punto tu sai, a seconda del tipo di oggetto, che oggetto è o di che colore è o di che materiale è, tu sai che quella sequenza o il contrario di quella sequenza può creare, o perlomeno ci arrivi poi con ragionamento, perché è questo, cioè gli enigmi sono sempre da avventura grafica, ma sono le modalità che cambiano, ed è questa la grande originalità di Loom. Tra l'altro se lo giocherai e lo giocherai magari in live, cosa che io ti suggerisco di fare, le seguirò tutte proprio per a PC. Va bene, allora magari lo facciamo in live, va bene, però la cosa che mi chiedo, no, e chiedo anche a Cristianone, ma il fatto che è l'unico gioco con questa modalità, con queste note, no? È perché non ha avuto successo questo tipo di impostazione o perché hanno voluto fare proprio una cosa unica qui? No, guarda, da quello che so io è che sicuramente aveva disorientato il pubblico e probabilmente diciamo che forse la risposta non è stata quella che si aspettavano. Poi, sai, questo è... c'era proprio un progetto artistico secondo me dietro a Loom, forse era anche un po' troppo sperimentale, perché era poi alla fine sperimentale, magari in un contesto dove magari il mondo dei videogiochi ancora non era così aperto, no? Cioè alle super sperimentazioni come Loom, quindi ci può anche stare che magari non ha ricevuto magari una risposta o così come si aspettavano, che comunque ha disorientato il pubblico. Questo che abbia disorientato il pubblico sono sicuro, perché mi ricordo che lo lessi pure da qualche parte, però ti devo dire la risposta non che tipo di impatto ci ha avuto anche a livello di vendite non te lo so dire. Però forse hanno poi preferito tornare al classico uso dei verbi, che magari erano più tranquilli, no, sulle vendite, sull'apprezzamento, può darsi, no? Dice, vabbè, torniamo al classico, magari. Sì, aggiungiamoci anche. Tranquilla la questione. Aggiungiamoci anche che secondo me Loom è un unicum, e secondo me è bello così, perché se fossero usciti tanti giochi come Loom, con meccaniche troppo diverse, troppo alternative, secondo me alla fine avrebbe un po' sminchiato la cosa, insomma. Però, insomma, vedo che Cristiano ha scritto qualcosa, però. Mo leggiamo, allora. Simone Nicolai dice: beh, io pure non l'avevo mai giocato, l'ho recuperato tipo nel 2017 o giù di lì, quindi anche lui l'ha recuperato da poco. Devil dice: a me manca Loom, lo dovrei recuperare, sono una lumaca a sfoltire il backlog. Vabbè, ma magari si gioca in live. Simone dice sì, è l'unico con questo tipo di giocabilità, insomma, penso fosse un esperimento, secondo me. E Cristiano dice: è proprio una roba sperimentale, molto particolare, paradossalmente molto attuale oggi, in cui si provavano spesso interfacce e gameplay alternativi, veramente troppo avanti. Il problema è che qui in Italia si diffuse meno perché arrivò non tradotto. Ah, non l'hanno mai tradotto? Non lo sapevo. Io l'ho giocato in italiano. Poi Roba Lucas passò alla CTO e tradussero tutto. Ah, quindi dopo l'hanno tradotto, quindi. Sì, io l'ho giocato su Amiga, tradotto in italiano. I testi erano tradotti in italiano. Ma non so se prima, dopo, quando, durante. Perché poi sai, allora, cioè, o c'hai una memoria veramente cronologica. Io so solo che l'ho amato tantissimo, l'ho giocato tutto e mi ha portato via un capodanno. Il capodanno era qui, mentre facevi gli incantesimi qua con le note. Esatto. E intanto è arrivato Inspi. Buonasera Inspi. E Al dice: il miglio, se lo cercate lo comprate. Dopo lo cercheremo, allora. Astolfo l'ha giocato tradotto. Ok. Allora vado di mia ottava posizione. Vedete, la mia ottava posizione, chi segue il canale lo conosce, è comunque un gioco famosissimo fatto da un'unica persona, quindi avete già capito di che sto parlando. L'ho giocato insieme a Inspi ed è stato uno dei primi giochi che ho portato sul canale, e io lo trovo geniale nella sua semplicità. Per me è stato uno dei giochi più belli che ho giocato negli ultimi anni, ossia Papers, Please. Questo gioco è, ripeto, tanto semplice ma tanto geniale allo stesso modo. Io mi sono divertita tantissimo insieme a Inspi a giocarlo, e lo consiglio spesso anche ad altre persone. L'altro giorno l'ho consigliato anche a mia sorella, a mio cognato, di recuperarlo, perché è veramente unico come gioco, bellissima anche la musica iniziale, io l'adoro tantissimo. A volte, che ne so, pure mentre faccio la doccia metto pa pa pa pa pa pa tam. Quindi Gloria Dastorska, come cazzo si chiama. E divertentissimo, perché noi in questo mondo distopico che ricorda un po' l'URSS, l'Unione Sovietica dell'epoca, praticamente noi siamo estratti, che culo, alla lotteria governativa per lavorare alla dogana. E quindi praticamente noi siamo obbligati, perché comunque c'è una dittatura, e a fare questo lavoro, e dobbiamo controllare i documenti di chi deve passare o meno. Quindi siamo noi che decidiamo chi può passare o meno. Ovviamente dobbiamo fare pochi errori, sennò poi veniamo ammoniti, ci pagano meno. Noi dobbiamo comunque dar da mangiare e riscaldare, perché stanno al gelo, la nostra famiglia, eccetera eccetera. Quindi comunque i soldi ci servono, e ovviamente dovremmo fare anche delle scelte morali per far passare o meno determinate persone che magari hanno i documenti che non vanno bene. E poi bisogna comunque controllare anche il giornale quotidianamente, perché a volte non possono passare alcuni di alcuni paesi, quindi a seconda un po' di come va la politica estera e insomma nazionale, dobbiamo controllare sempre chi può passare o meno. E più si va avanti, più bisogna controllare tantissime cose: l'altezza, il peso, se il nome è scritto bene, se il simbolo del paese da cui viene è giusto, se hanno dei permessi particolari per lavoro, se i numeri scritti nel permesso sono giusti. Fatto tutto in maniera ultra veloce, perché ci pagano a seconda di quanta gente facciamo passare. Quindi dobbiamo far passare tot gente in tot minuti, senza però, ripeto, sbagliarci, perché sennò veniamo ammoniti e ci pagano di meno. La cosa interessante è che bisogna fare, se non sbaglio, tipo una ventina di giorni e poi finisce il gioco, e a seconda delle scelte ci sono 20 finali differenti. E addirittura io e Inspi abbiamo avuto il finale buono, non ci credo, infatti quando abbiamo avuto il finale buono le lacrime, non ci credevo. E quindi io questo, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente, perché nella sua semplicità è geniale, è divertente, ci sono scelte morali da fare, è molto profondo, e addirittura da quanto ha avuto successo questo gioco del mitico Lucas Pope, hanno fatto un cortometraggio che potete trovare su YouTube di una decina di minuti con tanto di persone che recitano, quindi un cortometraggio recitato e un personaggio che si incontra spesso nel gioco che ha scritto adesso Simone Nicolai, ossia Iori. Si capisce benissimo che è lui anche in questo cortometraggio, che è fatto veramente veramente bene. Io questo, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente, spesso sta anche in offerta. Non so se addirittura è uscita anche la versione mobile, quindi volendo lo potete anche giocare sul cellulare se volete stare più sbaccati, come dicevamo prima, insomma. Quindi per me questo è veramente uno dei giochi più belli che ho giocato negli ultimi anni, assolutamente doveva stare nella mia top 10. Tu, Simone, l'hai giocato? Allora sì, l'ho giochicchiato perché per me è troppo impegnativo, nel senso morale proprio, cioè nel senso, allora posso dire che è stato innovativo, originale, soprattutto molto anche un po' sperimentale, diciamo, ma soprattutto è tosto, cioè cazzo, cioè, che poi dall'altro da lì in poi ne sono usciti diversi di giochi, sì, con questo tipo di impostazione, no? Quindi che significa che il gioco ha lasciato il suo segno, e questa è una cosa abbastanza importante. Però ecco, devo dire, è un po' come Beholder, no? Cioè tu vai a vedere, alla fine tu, il concetto è che tu sei il portiere del palazzo e devi tenere sotto controllo la situazione, perché ovviamente anche lì sempre il discorso del regime, diciamo l'ispirazione è sempre quella sovietica. Il fatto di essere infami anche in certi casi, o comunque essere cattivi, o dover comunque limitare comunque la scelta, la libertà di qualcuno, devo dire che già è abbastanza amaro quello che vedo intorno a me, e preferisco, insomma. Però dai, è stato forse in quel momento della mia vita in cui mi è capitato, forse non era il momento giusto, ecco, diciamo così. Può darsi, perché sì, ripeto, nella sua semplicità, poi ti ho detto, le scelte morali sono molto importanti, e soprattutto poi le devi fare anche rapidamente, no? Perché dicevo, comunque a tempo, quindi non è che neanche ci puoi stare a pensare troppo, che faccio, lo faccio passare, non lo faccio passare, e però poi ci sono tutte delle conseguenze, ripeto, tu comunque hai una famiglia da sfamare e da dargli il riscaldamento. E quindi che fai? Pensi alla tua famiglia? Pensi a quello? Cioè, nel senso, se tu lo fai proprio in maniera immersiva, no? Tu ti metti nei panni della persona, di questo qui che sta alla dogana. Tu al posto suo che cosa faresti? Capito? È proprio bello questo, no? Perché ti fa veramente immergere in una situazione tale che dici, oh cazzo, al posto suo io che cosa farei? Cioè, capisci? È proprio la cosa bella, perché tu lo vedi così, sto cosetto pixelloso, i documenti. Io pure all'inizio l'ho recuperato anni dopo, cioè questo è uscito nel 2013, l'ho recuperato nel 2019 più o meno, e non gli ho mai dato due lire, onestamente. Invece poi mi sono resa conto di quanto sia in verità un gioco degno e assolutamente profondo e difficile da saper cosa scegliere, insomma. Quindi molto molto bello. Sì, e poi se tu consideri comunque per nella sua semplicità, no? Anche nel suo minimalismo estetico, è comunque un gioco veramente articolato e ben progettato, cioè è una cosa che merita assolutamente di dover essere giocato, anche per capire un po' tante cose sono uscite dopo, nel senso che, come sempre, tante volte il punto di partenza aiuta a comprendere un po' come si sviluppa anche il resto del mondo del videogioco, insomma. Ma anche perché poi bisogna mettere in conto tutto fatto da un'unica persona, che secondo me è una cosa ancora più, sì, dici, cioè, complimenti di cuore a Lucas Pope, insomma, veramente grande autore, cioè, questo è veramente un autore qui contro coglioni, a mio avviso. Sì, perché comunque ho detto, allora Newpick, scusami, diceva, adesso c'è una patch amatoriale per Loom, ma quanto ne so, ai tempi non lo tradussero. Simone, sei sicurissimo? Perché dovresti averlo giocato in inglese, ma non era ostico comunque, ha detto. Guarda, io sono abbastanza convinto di averlo giocato in italiano, abbastanza convinto in italiano su Amiga, però sai, non, in questo momento nella mia veneranda età non posso garantire sulla mia memoria. Ma poi era Capodanno, magari, che ne so, ero ubriaco e quindi capivo tutto a prescindere. Esatto. Simone dice Gloria Darstotska, come cacchio si dice. Astolfo Solunari dice ricorda un po' Orwell, vabbè distopico insomma, quindi c'è un regime totalitario e quindi sei controllato in ogni cosa che fai, quindi la base alla fine è sempre più o meno quella. Come si chiamava il tipo che ci provava sempre per passare gli ori, sì. Hanno praticamente inventato un sottogenere con questo gioco, sì. Dice sempre Cristianone, sì. E poi dice Pizzi uguale Tenerone perché non sei riuscito a giocarlo, no, insomma. Infatti, mi sono intenerito. Non avrei mai potuto fare il doganiere in un regime socialista. Non avresti potuto, però eri obbligato. Eri obbligato perché qui c'è la lotteria, e a sorte sei stato estratto te. E se non lo facevi, ammazzavano probabilmente te e tutta la tua famiglia. Sì. Quindi diciamo che forse lo dovevi fare per forza. Vabbè, diciamo che il presupposto è assurdo perché comunque è un'opera di fantasia. Perché insomma, te estraevano la lotteria. Insomma. Però comunque. Dai. Però diciamo l'obbligo nel fare le cose se no ti ammazzo, diciamo, non è lontano dalla fantasia. Immagino di sì, immagino di sì. Insomma, anche se è molto estremizzato come concetto, però sì, comunque. Sì, sì, sì. Però diciamo che la base non è così lontana dalla realtà, insomma. Ok, dai, passiamo al settimo gioco, quello tuo. Allora, anche questo gioco è legato a un aneddoto, chiaramente. E si tratta di FA-18 Interceptor, che è stato uno dei pochissimi simulatori di volo, in questo caso simulatori di volo militare, che ho mai giocato in tutta la mia vita, e su Amiga 500. E, allora, ci sono diverse cose che posso dire. Allora, il gioco è un simulatore di volo dove tu insegui nemici e li ammazzi, cioè non è che c'è così tanto da dire, però diciamo che all'epoca non eri così abituato a vedere degli scenari interamente in 3D, e per quanto ovviamente siamo lontani ovviamente dagli effetti di luce, dalle texture mapping, era tutto molto piatto, no? Come tipo di 3D, era un gioco diciamo che per l'epoca comunque te la dava la percezione del realismo, perché tu quando comunque ti muovevi vedevi il mondo che si muoveva intorno a te, quando tu salivi ovviamente tutto diventava più piccolo, quando ti abbassavi tutto diventava, e dicevi ma perché ovviamente nella tua piccola mente, dove non è che capivi come funzionava matematicamente la grafica vettoriale o la grafica 3D, dici ma questo mondo dentro il computer esiste veramente? Lo so, è un po' stupido come principio, però è una cosa no, che vabbè, no, ci sta. Ma sempre fatto sorridere questa cosa, perché io mi intrippavo e guardavo questa cosa e dicevo cioè se questa cosa sta succedendo, cioè in qualche modo esiste, cioè facevo tutti dei discorsi filosofici miei, tutti asburgici, completamente asburgici. E poi mi ricordo che praticamente questo gioco non c'aveva una storia, fondamentalmente c'erano 20 missioni, metti le cose, poi tiro un giù un numero a caso, 20 missioni dove tu praticamente partivi dalla base, ritornavi alla base, o partivi dalla base dove atterravi nella portaerei, che era difficile, però poi ovviamente c'erano dei MiG nemici che arrivavano e tu li dovevi abbattere, poi fino arrivava una delle ultime missioni dove tu praticamente dovevi proteggere l'aereo presidenziale, ossia c'era l'aereo presidenziale che stava atterrando e dovevi quindi sgomberare l'aria dai caccia nemici, perché però poi che succedeva? Che questo gioco aveva quello che io penso che fosse un bug, cioè nel senso immagino, perché se tu ti avvicinavi troppo all'aereo presidenziale, l'aereo presidenziale impazziva e faceva su, giù e poi si schiantava. E quindi per me era, cioè... Forse se stava a caga sotto, si è avvicinato troppo. chi lo sa perché? Però sta cosa mi faceva troppo ridere, e quindi ogni volta che c'era la missione dell'aereo presidenziale io andavo praticamente sulla coda e questo impazziva. Oppure addirittura lo tiravo giù direttamente io, cioè prima gli tiravo i missili all'aereo presidenziale. Cioè facevo cose che ovviamente non erano previste dal gioco, però sti cavoli, tanto poi alla fine poi le missioni le facevi e le portavi a termine e finivi il gioco. Tra l'altro è stato uno dei primi giochi, a parte insomma quelli poi che sono usciti dopo, tipo Baldur's Gate oppure i giochi che hanno messo in vendita poi un data disc, cioè nel senso un disco supplementare che c'aveva soltanto le missioni aggiuntive dentro, non c'era il gioco. Quindi una sorta di DLC. Ah, tipo di DLC. Esatto, un DLC ante litteram, capito, che tu praticamente compravi tramite il disco, anche se comprare, ribadisco sempre, all'epoca era una parola grossa, insomma. E un'altra cosa fighissima è che l'Amiga 500 aveva 512k di RAM, che rispetto a noi che veniamo dal Commodore 64 era l'ultra universo, cioè che cazzo ci metti dentro 512k di RAM, cioè incredibile tutta questa memoria, no? Però poi in realtà FA18 Interceptor fu il gioco, il motivo, perché vedi c'è sempre un motivo per cui ho fatto le cose, è sempre un gioco che mi ha fatto fare cose, è sempre l'aneddoto, esatto, è stato il gioco che mi ha costretto a comprare l'espansione da 512, ossia praticamente c'era questa scheda enorme che si installava sotto l'Amiga, cioè l'Amiga tu levavi uno sportelletto, inserivi sta scheda, spengevi l'Amiga, riaccendevi l'Amiga e l'Amiga c'aveva un mega di memoria, di RAM. Incredibile, ma che vuoi proprio? E a quel punto perché lo feci io questo? Perché praticamente lessi da qualche parte che su FA18 Interceptor, se tu avevi un mega di RAM, nel menu iniziale dove si sentiva un suono di basso, in realtà c'era una melodia più complessa che era simile a quella di Top Gun, perché è molto ispirata a quella di Top Gun, e poi in volo e quindi durante il gioco c'erano tutta una serie di effetti digitali che altrimenti non ci avevi, tipo che ne so, il rumore dei flap, il carrello che tocca la pista, tutte cose che tu dici vabbè ma il gioco era uguale, sì era uguale, però io lo volevo, cioè nel senso a me era più immersivo, no, con il suono, cioè io come ho scoperto una cosa che c'era, come ad esempio io quando c'era il PC giocavo sempre a FIFA, cioè al gioco di FIFA, e a un certo punto vado dentro un negozio e vedo il gioco di FIFA che c'aveva, che ne so, l'effetto volumetrico, la nebbia, il texture del prato che sembrava realistico, no? Dico, cioè, ma perché il mio non è così? Cioè, perché sai, c'è questa scheda grafica nuova, 3D, no? Perché usciva, cioè... Cazzo, cioè... No, devo avere. Esatto, io ero così, io purtroppo ero un bambino viziato che voleva le cose e le doveva avere. Ma cioè, non è che andavo, chiedevo e me davano, cioè, nel senso, comunque magari mi mettevo a lavorare per X tempo per ottenere... O comunque mi inventavo qualcosa per ottenere comunque quello che desideravo. Ecco, questo gioco mi ha fatto comprare l'espansione da un mega per Amiga 500, che tra l'altro mi portò diversi benefici, come ad esempio in Operation Stealth della Delphin Software c'era il parlato, cioè tu dici come c'era il parlato? Sì, era il parlato con la voce sintetizzata, cioè quella tipo... come quella prima che non si capiva che no, quella era digitalizzato a bassa frequenza, invece quelle sintetizzate, l'ho visto quando tu scrivi sul computer il sintetizzatore che lui legge, il computer legge con la sua voce, no? Cioè nel senso, e quindi c'erano queste voci così trocche che però era figa come idea, cioè nel senso era una cosa completamente inutile, però era, cioè, era la rivoluzione allora, tutta sta roba, capito? Tutte queste sperimentazioni, ecco, FA18 Interceptor. Beh, erano tutte le novità, no? Che quindi uno rimaneva affascinato, no? Eh beh sì, cose che oggi magari, cioè nel senso, per avere uno stacco così importante di innovazione non, cioè oggi la percepisci di meno sta cosa, perlomeno questa è la mia sensazione. E poi questo gioco, chiudendo, io praticamente facevo l'acrobazia, ero talmente skillato, ci giocavo talmente tanto che alla fine facevo, che ne so, andavo su fino a 40.000 piedi, che arrivavo al massimo che poteva arrivare l'aereo, spegnevo tutti i motori, andavo in picchiata e passavo sotto al ponte di San Francisco praticamente, e facevo tutte ste cose e mi sentivo contento di fare sta cosa. Io di questo gioco posso dire che non lo conoscevo, però ha un'ottima annata, 1988, quindi direi che già partiamo bene. E però i simulatori di volo mi annoiano. No, quindi no. Sono giochi che proprio non fanno per me. Vabbè, qui partono intanto le pubblicità. Sì, facciamo. Però diciamo che, capito, non... Cioè, solo a guardarlo mentre tu stai a parlare pensavo che palle, cioè non fanno proprio per me i simulatori di volo, no, assolutamente. No, ma neanche per me, cioè io penso che forse è l'unico a cui ho giocato in tutta la mia vita, solo che in qualche maniera mi aveva affascinato, forse perché c'era un mio amico che era molto fissato con le cose aeronautiche e mi aveva insegnato praticamente a padroneggiare totalmente, cioè io... cioè questo gioco per me non c'aveva segreti e quindi era figo questa cosa qua, cioè nel senso l'uso, cioè io ero convinto a un certo punto, a me se mi danno un F18 io salgo su e vado meglio di Tom Cruise praticamente. Cruise, esatto. Perché se no sì, neanche io sono un fan anzi penso detto ho giocato questo, però poi io lo guardavo perché vedevo il mondo che diventava, capito? Poi se tu vedi il dettaglio grafico è zero, cioè nel senso pure quando tu andavi nelle città, le città erano degli esagoni praticamente che invece di essere verdi erano grigi, quindi tu capivi, e c'erano quattro paralleli buttati in là, cioè quella è la città, insomma. Diciamo, quella è la città. Che bella questa città. Vabbè, però dai, qui invece l'aereo vedi che c'ha tanti dettaglini, quindi l'hanno messi qua i dettagli più che sul mondo circostante, capito? Sì, tutto sommato, ho detto, comunque era curato come gioco, cioè, nel senso anche a livello di simulazione, la percezione comunque di quello che facevi sembrava realistico, poi da qua a sapere se lo era veramente, non lo so. Allora, Newpic dice, parte da un aneddoto che bello, e gli piacciono tanti due aneddoti. Inspi dice, oddio, un mio amico all'epoca era fissatissimo con sto gioco, vedi. Newpic dice, non voglio più un aneddoto di pizzi su ogni gioco, voglio proprio una puntata dei soli aneddoti, possibilmente una miniserie, potresti fare... A settembre su Runtime una miniserie su aneddoti. Sugli aneddoti, va bene, ok. Allora, dicevo, ho avuto l'amica ma non me lo ricordo. È arrivato Vincent, buonasera Vincent, che dice, l'atterraggio sulla porta aerea di notte c'era? Prima c'era la porta aerea. Allora, tu iniziavi che decollavi e atterravi da una pista normale, solo che durante le varie durante le missioni cambiavano i punti d'atterraggio e dovevi atterrare anche nella porta aerea. Però non esisteva la notte in questo gioco, cioè nel senso è tutto del giorno. Quello che tu vedi è tutto così, cioè nel senso i colori erano sempre questi, quindi fondamentalmente. Però atterrare nella porta aerea, allora, dopo che avevi capito come funzionava, era il gioco più semplice del mondo. Però ci dovevi arrivare, perché comunque atterrare. Però ci mettevi anni per capire. Eh sì, perché comunque atterrare nella porta aerea non era facile, perché lo spazio era stretto, tu dovevi capire a che velocità dovevi arrivare, insomma, vabbè, era impegnativo da quel punto di vista. Sì, io penso mi schiantavo malissimo. Era anche quello. E Alpo dice, io sono passato direttamente ad Amiga 1200 ed è arrivato Luca Di Massimo. Buonasera Luca, buonasera. Ok, quindi passiamo al mio settimo. Questo vabbè lo conoscono anche i sanpietrini, perché dice, direi abbastanza famoso, abbastanza famosello. Ossia Final Fantasy X. Oh, quanto lo amo. Ho scritto Final Fantasy. Scusate. Non lo so che ho fatto qua un casino. Fantasy 10. Vuoi cerchi per favore? No, troppo. Final Fantasy 10. Ok. A posto. Allora, praticamente... Cioè, addirittura questo... ti chiede pure se sei maggiorenne per vedere Final Fantasy X. Forse perché soprattutto sul 2, il 10-2 ci sono un po' di tette, non lo so perché. Non lo so onestamente. Allora io andavo primo anno di liceo, PlayStation 2 ed era uscito Final Fantasy X. Io non ce l'avevo ovviamente. Però andavo a casa di una mia compagna di classe che ce l'aveva e quindi ovviamente la obbligavo a metterlo. Però per lei non era un problema perché comunque anche lei era innamorata di questo gioco. Ed eravamo entrambe innamorate di Tidus. Stranamente io non amo i biondi, però in quel momento eravamo entrambe innamorate di Tidus. E mi ricordo ancora che lei aveva un televisore 2000 pollici, cioè una cosa enorme c'aveva. E mi ricordo quando lei l'ha messo la prima volta, c'è stata tutta l'introduzione con la musica stupenda, con loro che stanno vicino al fuocherello, bellissimo insomma. E io sono rimasta senza parole assolutamente da questa introduzione stupenda e da lei avevo fatto tutta la parte iniziale di quando lui deve giocare mi viene il Quidditch, Blitzball. E quindi c'è tutta quella parte iniziale, da lì avevo fatto quello e mi ero gasata un botto su sta cosa e poi insomma sono riuscita a rimediarlo anch'io e mi ci sono chiusa tantissimo e ho amato tutto di questo gioco. Allora, i miei personaggi preferiti in verità sono quelli che alla fine piacciono a tutti, ossia Auron assolutamente, mi piace tanto anche Lulu come personaggio più che Yuna e Tidus, e vabbè, quindi in verità poi mi sono piaciuti più Auron e Lulu che sono più fighi. Però mi sono piaciuti alla fine tutti i personaggi di questo Final Fantasy, tranne Kimari, che è quello lì, quella sorta di coso peloso blu, che cazzo è, non lo so, non ho mai capito cos'è Kimari. E infatti io non l'ho mai utilizzato perché dovevi far livellare i personaggi utilizzandoli e c'era tutta una cosa enorme, infinita, dove tu potevi scegliere quando livellavi cosa fare aumentare, no? Come nelle loro statistiche. La sferografia. E io mi ricordo, perdonami? La sferografia, bravissimo. E mi ricordo che praticamente io non riuscivo a ammazzare Sin, cioè sono arrivata alla fine, cioè il boss finale mi faceva il culo e ho rosicato perché mi mancava soltanto ammazza Sin. E praticamente tanti anni dopo io ho detto a Gabriel: guarda, io non sono mai riuscita a finirlo perché Sin mi fa il mazzo, perché dopo tot turni praticamente ti ammazza, cioè non puoi fare nient'altro, ti ammazza qualsiasi livello tu stia, se entro tot turni non lo ammazzi ti uccide male. E io morivo sempre, rosicavo, perché dico: che cacchio, ho fatto fino a questo gioco stupendo, meraviglioso, non riesco a finirlo, e ho rosicato. E invece Gabriel mi ha detto: guarda che tu sbagli a non usare Kimari, perché io non l'ho mai usato, cioè è rimasto sempre lì a livello pippo proprio, cioè proprio base, mai livellato, niente, mai usato perché non mi è mai piaciuto. E alla fine, giocando poi meglio, facendo livellare tutti eccetera, poi l'ho finito. Poi ho comprato la Remastered, quel che stiamo vedendo adesso, per la PlayStation 4, ci ho rigiocato molto volentieri. Io onestamente ci rigiocherei ancora un'altra volta, perché di questo gioco mi piace veramente tutto, dalle musiche, come dicevo, i personaggi, la storia, la giocabilità a turni, che è quella mia preferita nei JRPG, è quella a turni. Quindi i Final Fantasy successivi a me non fanno impazzire, perché a me piace quello classico, quindi a turni strategico, quindi posso scegliere che cosa utilizzare, cambi personaggio, usi la magia, con quello curi, con quello usi quell'oggetto, eccetera eccetera, e c'hai l'ordine in cui aggiranno i tuoi personaggi quando attacca poi il nemico. Mentre poi in quelli successivi sono diventati sempre più action, a me questa cosa mi ha fatto girare letteralmente le scatole, perché per me il JRPG deve essere così, a turni e strategico. Quindi quando sono più action, e infatti a me tutti i Final Fantasy successivi non mi hanno fatto impazzire, e infatti quest'ultimo proprio non l'ho proprio considerato, guarda, perché comunque so che anche in questo caso il combattimento è action, e invece vorrei recuperare quelli vecchi che mi mancano, il 7, 6, 7, 8 e 9 vorrei recuperare, che mi mancano proprio i classici, però piano piano quelli sì, li vorrei proprio recuperare. E niente, questo è assolutamente il mio secondo JRPG preferito in assoluto, proprio della storia. Infatti a breve ci sarà il mio primo JRPG preferito. Però questo sì, secondo me non ha difetti, è veramente un gran gioco. Poi vabbè, invece il 10-2, che comunque ho provato poi su PlayStation 2 all'epoca, mi ha fatto veramente così cagare dopo un paio d'ore che non ho detto no, ma che è sta cosa, e l'ho tolto. Quindi non l'ho, anche quando ho preso poi la Remastered per la PlayStation 4 non l'ho proprio considerato. Non esiste, non esiste. E quindi sì, per me questo è questo. Allora, difficilmente uso la parola capolavoro, come vi ho detto sempre, però forse qua la posso utilizzare. Sì, per me questo sì, non ha difetti sto gioco, troppo bello. Poi adoro gli Eoni, adoro Ifrit tantissimo, mi piace, belli belli belli, stupendo. Te Simone l'hai giocato? Sì, beh, io l'ho giocato tutti Final Fantasy fino al 13, quindi per me sono anche d'accordo con quello che dici te, cioè nel senso, non in senso assoluto, ma cioè io ero comunque affezionato al vecchio modello, magari da evolvere, no? Cioè quello del combattimento a turni. Quindi diciamo che l'evoluzione che poi ci hanno avuto i Final Fantasy non è che mi ha fatto impazzire, devo dire, non mi ci sono più ritrovato. Anche se comunque giocando anche il 13, devo dire che poi alla fine è sì action, però comunque c'è sempre un po' una logica del JRPG a turni, comunque in qualche maniera. E sembra strano dirlo, però in realtà è perlomeno fino al 13 è così. E il 10, vabbè, io ho finito sia il 7, l'8 e il 9, e devo dire la verità, io il 10 è l'unico che non ho finito. Lo so. Infatti mi è sempre rimasto qua sta cosa, perché volevo sapere pure come andava a finire, a parte che la bambina muore naturalmente. Vabbè, ovviamente. Perché non so come finisce. No, guarda, muoiono tutti, perché ecco, a posto. Perché ti ho detto, Sin, se non riesci a sconfiggerlo ti ammazza male, quindi muoiono tutti. E io questo, ecco, non l'ho mai finito, e quindi sono sempre rimasto col dubbio, perché io arrivo a un punto in cui tu praticamente prendi l'aeronave e viene attaccato da un drago, e quel combattimento non riesco a superarlo mai, non ce l'ho. Ho capito. E da lì non sono riuscito mai ad andare avanti, e quindi, ma per ben due volte, perché io comunque l'ho riniziato due volte, sono arrivato sempre in quel punto, quindi evidentemente sbagliavo qualcosa nell'evoluzione. Però sì, mi piaceva anche a me come dici te, l'introduzione è meravigliosa, cioè ha una magia incredibile, molto angosciante. È la musica. Sì, beh, è chiaro, faceva parte un po' del... bella. E poi molto angosciante tutta la parte di Zanarkanda lì, come si chiama? Che... Zanarkanda. Come cazzo si chiama? Zanarkand. Sì, vabbè, vabbè, comunque dai, alla fine cioè, nel senso, quando sta arriva all'onda, cioè, c'è questo, cioè, è permeato di questo senso di fatalità, di tanto dobbiamo morire tutti, cioè, nel senso, e questa cosa mi ha sempre affascinato, tutto sommato. Non amavo il personaggio, il protagonista Tidus, mi faceva proprio cagare, scusa. Sì, no, infatti meglio Auron e Lulu, assolutamente. Auron mi piaceva, sì, anche se pure lui era uno stereotipone incredibile, però diciamo che tutto sommato a me comunque i personaggi, cioè, mi piacevano, è che lui proprio, cioè, a me questa cosa che tu il protagonista JRPG lo devi fare un po' infantile, un po' stupidello, però poi alla fine è l'uomo che salverà l'universo. Cioè, mi fa sempre un po' strano, capito? Ma questo su tutti, non sul 10 in particolare. Però bel gioco veramente. Sì, poi le cinematiche erano proprio belle, sia nella versione sia nella versione vecchia. I momenti quelli lì di cinematica, come dici te, all'epoca io lo guardavo e facevo: oddio, sembrano veri. Da paura. Poi la Square ci ha sempre puntato su sta roba, e devo dire che hanno sempre fatto un gran lavoro. E il 10 non era da meno, chiaramente. Sì, no, troppo bello. Allora, leggo un attimo, ma in realtà non ho mai avuto l'occasione di giocarli, non sono mai stato nel posto giusto al momento giusto forse, però guarda, se ti capita, vabbè, quelli considerati più belli alla fine sono 7, 8, 9, 10, mi sa, sono considerati quelli più belli di Final Fantasy. Io questo te lo consiglio proprio di cuore, è veramente un gran gioco, è lungo, sì, però... Vabbè, vale veramente la pena. Per tutti i Final Fantasy. Tutti i JRPG sono lunghi. Sì, sì, appunto. Poi Simone ha fatto l'hashtag "la bambina muore". Esatto. David dice: "non spoilerate". No, ma non stavo spoilerando. Diciamo che se non riesci ad ammazzare Sin, ammazza tutti. Cioè, ma questo è scontato. Se non ammazzi il boss finale, t'ammazza. Diciamo che non è il finale quello. Tra l'altro, c'era una delle evocazioni sul Final Fantasy 8, che è Odino, che ci stanno, vabbè, tanto le evocazioni sui Final Fantasy sono sempre quelle, no? Che praticamente tu, quando arrivi nel tempio dove puoi prendere Odino come Guardian Force, come evoluzione, come evocazione, praticamente parte questo combattimento e tu no, e lui non fa niente. Quindi tu stai lì e lo ammazzi de botte, in continuo pappa, con tutti i personaggi, tutte le mosse più potenti che c'hai, roba del genere, e lui non fa niente. Lui sta lì. E l'unica cosa che tu non sai, e che poi lo capirai ovviamente, è che lui aspetta, e se tu nel periodo in cui lui aspetta lo sconfiggi, lo è sconfitto e prendi l'evocazione, se no lui ti sputa in faccia e sei morto, cioè. Ah, è come Sin praticamente, sì, questa cosa che a un certo punto lui ti guarda e tu sei morto, basta. Sì, sì. Cioè, dice: vabbè, sì, tu mena, vediamo cosa c'ha. Sta lì, non fa niente. E poi esplode e muore. E Sin fa più o meno la stessa cosa. Sta lì, lui non ti dice niente. Che ti deve dire? Cioè, sta lì, non ti dice niente. Anche di se muove, dice pure minaccia ad attaccare. Niente, però sta lì, sei un fermo. Sta lì, te guarda, aspetta. Vabbè, ma anche il sangue mi ha fatto uscire. E poi Cristiano dice: la bambina muore pure nel prossimo gioco, se non erro, ma sicuramente proprio. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.